una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Per quanto riguarda la residenza degli anziani, ci sono andato spesso accompagnando la mia mamma e cercando di portare a queste persone conforto e magari anche aiuti concreti. L'accettazione, non ce la faccio più, mi sento male, mi manca solo ormai l'estrema unzione. Bubucetete, come va? Com'è che va? Manica di picchiatelli. Noi non siamo picchiatelli. Non siete picchiatelli, va bene, i bambini, gli anziani, tanto è lo stesso. Ho staccato il tubo, serviva? Sì, serviva. La signora è ancora in grado di votare? Sì! È in grado? La riattacco? Sì! Sì, vabbè, calma, state calma. Cosa c'era mai? Un po' di aria. No, riattaccato. Che figata. Allora, non sapendo cosa fare, ha fatto... Le vuoi una mentina blu? No, devo prendere quella per fluidificare il sangue. Credimi, questa fluidifica da Dio. Ma è blu. Ma prendine una, dai. Prova, manda giù. Provo. Ma provala. Prova. Ma manda giù. Ma vai. Come? Senti da Dio, come va? Come? Come? Aiuto. Come? Cos'è c'è? Aiuto. Sto male. Ma dai, insomma. Cos'è successo? Ma cosa è successo? È andato giù. Questo vecchietto dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Mi dispiace ma non c'è. È l'ora della pappa. Quella. Cosa fai qui, Nicole? Nicole? Io sono Suor Veronica. Ah, mi scusi, l'avevo scambiata per la Minetti. Si può mettere vicino al palo, per cortesia? Mi fa vedere. Ragazzi, sta mica male, è uguale alla Nicole, eh? Non conosco nessuna Nicole. Non conosce la Nicole? No, no, no, lei adesso però prende questo vassoio, sì? E dà da mangiare alla signora Pina. In che senso, scusi? La deve imboccare. Ma non c'è la servitù? No, no. Ma no, non no. Avete un buon aiuti, un toti? Dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Qualcuno, caro Parenzo, vuole mettere al gabbio Berlusconi? Vuole mettere al gabbio Berlusconi per quello che ha detto al TG5. Cioè, secondo alcuni, per esempio il signor Maltese. Maltese che è candidato però anche. Sì, con Maltese. L'estrema sinistra di Tsipras. No, estrema. Estrema sinistra. Con la sinistra. La sinistra, tu chiamala la sinistra. Compagno Tsipras. Compagno Tsipras, benissimo. Sì. Allora, il signor Maltese, il signor, che so, Mazzetti, quello della Rai. Là, sur Loris. Vorrebbe mettere al gabbio Berlusconi e altre persone vorrebbero mettere Lerner al gabbio Berlusconi perché secondo loro avrebbe già violato quello che dicono i giudici. No, non devi parlare male di noi. Sentiamo la frase incriminata al TG5. Io sono, ancora mi risuonano le frasi di Crozza di prima. Questa volta sono stato colpito da un'ingiustizia enorme. C'è stata una sentenza mostruosa che mi ha accusato di aver commesso un reato di frode fiscale a me, che sono probabilmente il primo contribuente italiano anche negli ultimi 20 anni, ma io ho assoluta fiducia che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo annullerà completamente questa sentenza. Appena sceso giù dal furgoncino. Vabbè, ha parlato male della sentenza, dai, è tutta una pantomima questa cosa qua. Non può attaccare frontalmente i giudici, però può parlare male della sentenza, può fare la vittima, eccetera, eccetera. È evidente che è una pantomima, dai, su. Sì, no, mi sembra così grave questo. No, non è grave, dai. Non è, questo indubbiamente non è grave. Al gabbio, in un altro paese, è vero, no, lo sappiamo, no? In un altro paese ci sarebbe stato il gabbio con la chiave buttata. Come ebbe a dire il professor Edward N. Lutwak. Lutwak. N, perché cosa sta lui? Ma che ne so. N. La zanzara, Lutwak. Eccoci qui, 800-24-0024. Mentre Sgarbi ci riprova come sindaco di Salemi, perché dice che è stata sospesa la democrazia, mentre il ministro Boschi e le dice paleoliche e Pasolini e Monflander, c'era anche Monflander che è andato cita sulla questione della pedofilia e Pasolini, ma dice no, ha cambiato sindaco a Salemi, però e le paleoliche nel culo te le metto le paleoliche e Monflander, la mafia. Dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace, ma non c'è posto. Mentre il ministro Boschi dice che vuole trovare un fidanzato perché single da un anno, vuole tre figli e dice che quando torna a casa, insomma, non ce la fa a stare da sola. Beh, bello, noi che siamo specialisti nel trovare fidanzati alle persone, come sai, siamo specializzati. A questo punto lanciamo il grandissimo sondaggio via. Ma nemmeno un sondaggio, un reclutamento via segreteria telefonica questa volta. Soliti i maiali che chiamano. No, i maiali li cassiamo. I maiali li cassiamo. Allora, volete fidanzarvi con la Boschi? È in cerca di un fidanzato, lo ha detto chiaramente in un'intervista a Vanity Fair. Vuole tre figli. Quindi. Vuole tre figli, dunque attenzione, non è che ne vuole solo uno, tre. Appunto. Ben tre. Dice di essere cattolica, contro l'aborto, lei non lo farebbe mai, eccetera, eccetera. Allora, chiamate lo 020246, appuntate bene, volete fidanzarvi con la Boschi? Tutto sarà recapitato al Ministero delle Riforme. 02 46 52 40 10. Abbiamo riattivato apposta la segreteria telefonica. No malintenzionati, no maiali. Mutuo esente, se è possibile. No, quello non lo so se è mutuo esente. E con la patente, eh? Ah, il candidato, dici. Sì, dico mutuo esente, sì, con patente. Con patente sicuro, non come Parenzo. No, mutuo esente, cioè non troppo carico di debiti. Bravo ragazzo, eccetera. Vabbè, quello è scontato. 02 46 52 40 10. Se volete avere qualche delucidazione, andate a vedervi, a leggere l'intervista su Vanity Fair in cui avete chiaro quello che vuole la signora Boschi, una delle donne più ambite in Italia. Chiamate. Abbiamo un grande ospite per parlare di cose un po' serie, perché è uscito da poco dalla galera, eh? Dimagrito di tanti chili, 7. Dimagrito, noi abbiamo fatto una grande battaglia, almeno io, sì, no, per la, io per la questo, scarcerazione, certo, di certo, questi signori. Però durante il fine settimana, queste brevi vacanze, ce ne sono troppe in Italia. Beh, abbiamo visto aprire il club Forza Dudu in Calabria, caro Parenzo. È una grandissima notizia. Sentiamo, a proposito, la nipote di Berlusconi, Luna Berlusconi, figlia di Paolo. Dietro questo nome c'è l'idea di Nino, che è un progetto animalista importante sul territorio. Quindi ci si vuole sempre fermare a prendere in giro il concetto di Dudu, facciamolo fare, intanto questi lavorano però. Mi dispiace, ma sì, ma non è necessario aprire, se uno è a favore degli animali, non è necessario aprire un club Forza Dudu. Non è necessario. No. Io vorrei che fosse appeso in tutte le scuole l'articolo di oggi di Antonio Polito sul Corriere della Sera, affisso in tutte le scuole, distribuito agli studenti. Sta provocando grande discussione. Polito scrive, Antonio Polito, sì, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno: lo Stato non può sindacare il perché di una manifestazione, ma il come. Può dunque vietare anche preventivamente un corteo che non dia garanzie di essere pacifico e senza armi. Certo. Hanno diritto a manifestare in difesa dell'illegalità anche illegalmente, cioè trasformando il corteo in guerriglia al fine di saldare i conti con i poliziotti? Secondo noi no. Benissimo. Dunque, secondo Polito e secondo me e secondo le persone ragionevoli, si può vietare tranquillamente un corteo che ha nel suo DNA in maniera esplicita la violenza. E se proprio devono fare una manifestazione, la facessero in periferia, in un campo vuoto, in un campo vuoto. Allora, non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un pazzo, con una corda al collo in fondo al mare, ha fatto finta d'essere un... Siamo qui con Lucio Chiavegato, indipendentista veneto, buonasera. Buonasera. Chiavegato, come sta? Signor Forcone. Bene. Di quanti chili è dimagrito in carcere? Una decina. Una decina di chili, ma non era in carne lei, dunque... Certo, adesso sono quasi perfetto. Cioè, quanto ha adesso? Adesso sono 90 kg. Vabbè, 90, ma sai che era 100 kg prima? Sì. Senta, Chiavegato, ma quanto si è fatto lei in carcere come indipendentista veneto per la questione della sovversione nei confronti dello Stato, terrorismo, tutte cose che pare che siano cadute, poi forse quelli ricorreranno, i giudici, eccetera. Quanto 17, si è fatto? 17 giorni. Senta, lo Stato italiano, lei che cosa, per lei che cos'è? Uno Stato che la perseguita? Ma lo Stato italiano per me e per molti altri veneti ormai altro non è che cos'è? Che un riscuotitore di tasse, sì. il nostro padrone che viene a riscuotere dalle colonie produttive le tasse. Colonie. Facciamo ridere come veneti perché veniamo spesso accostati ai cretini d'Italia, perché se non hai l'accento romanesco non sei una persona furba. Beh, e quindi noi invece ne siamo orgogliosi di essere veneti, siamo orgogliosi della nostra storia millenaria. Ma lei riconosce lo Stato italiano, Chiavegato? Beh, per forza devo riconoscerlo, mi è stato imposto, non è che non lo riconosco, però in questo momento qua non solo noi veneti ma molte altre persone della penisola non si riconoscono più in questo tipo di Stato, che ormai è uno Stato che difende solo le clientele, che difende una certa casta politica che lavora solo per se stessa. Di tutte le parti, signor Forcone, scusi un istante. Chiavegato era il leader, è ancora il leader dei cosiddetti Forconi. Forcone del 9 dicembre, indipendentista insieme, caro Chiavegato. Ma c'è qualcosa di cui mi pento? Tutta ta roba, il tanco e le intercettazioni. C'è una roba che dice: beh, forse abbiamo un po' esagerato. Certo, sbagliata la carcerazione, l'abbiamo detto, ma una robetta per cui no, tra veneti se può dir, tra no altri. No? Guardi, io non abbiamo fatto nulla di male, non abbiamo fatto di male. Quindi nessuno, rivendica tutto quel che ha fatto. Non era intenzione nostra far del male a nessuno, lo Stato ha voluto forzare questo, sbatterci in galera come con l'articolo di terrorismo, e quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Ma lei chiederà risarcimento allo Stato se fosse, dovesse uscire da questa vicenda? Finiamo, vediamo dove vogliono andare, vediamo come sarà l'evoluzione di questo processo, se vogliono andare avanti, dopodiché noi seguiremo i nostri passi. Ma lei si sente un po' italiano, Chiavegato, o no? Beh, è italiano. Ma guardi, io ho fatto il militare da paracadutista, ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in anni che c'erano, e poi ho maturato col tempo. Questa Repubblica qua era qualcosa che non era più consona con i miei usi e costumi. Butti il passaporto allora. E con il mio modo di fare. Lo butti, bruci il passaporto allora a questo punto. Bruci il suo passaporto. Ce l'ho già il passaporto veneto, solo che non mi viene accettato alle frontiere. Credo. E c'è questo piccolo particolare che per forza. Cioè lei ogni volta che va fuori deve mostrare quello italiano. Per forza. Un po' schifo, immagino. Pagare la marca da bollo anche, sì. Beh, sì. E il tricolore, che cos'è per lei? Ma il tricolore è stata la più grande truffa che sia stata fatta negli ultimi secoli, una bandiera che è stata imposta agli italiani attraverso, sappiamo benissimo cosa è successo nel Veneto, attraverso un plebiscito truffa dove i veneti non hanno potuto esprimere la loro opinione, cioè tanti anni fa, così tantissimi, beh, perché 147 anni sono questi, e non solo in Veneto. Ma lei le paga le tasse, Chiavegato? Sì, le pago, sì. Le paga, certo. Qualcuno fa addirittura la ribellione fiscale allo Stato italiano? Stanno cominciando a fare la ribellione. Non ho mai pensato di andare in esilio, che ne so, nella Russia di Putin, che mi sa che le sta Ci vado spesso in Russia, ma non. Grande paese. Non sono io da dover andare in esilio. E chi è? Io credo che sarà l'Italia che dovrà capire che il popolo italiano non esiste, purtroppo. Non esiste. Ma i confini, lei dove li metterebbe i confini della Repubblica Veneta? Così, per curiosità. Ma intanto cominciamo da Peschiera fino a Porto Gruaro. E poi da Peschiera a Porto Gruaro. Ci sono anche gli altri territori. Ma lo sanno a Peschiera? Che facevano parte della Serenissima Repubblica. Ah, per cui lei dice i veri confini sono quelli della Serenissima Repubblica. Intanto cominciamo dal Veneto. Ma metterebbe proprio i confini veri e propri con le torrette, con le cose, con i fili spinati? No, ma guardi che non c'è. Cioè, adesso voi magari fate satira perché è impostato così il vostro programma. Non è che ci stiamo ridendo, vede? Ma io non rido, guardi, che io sono anche a favore, che c'entra? Per un qualcosa di quattro matti, io vi ricordo solo che in Veneto ci sono 5 milioni di abitanti. Vi ricordo che la Slovenia, che è uno stato indipendente, che è diventato indipendente, ha 1.800.000 abitanti. Ma è un'altra storia, però. Ma è un'altra storia, No, è proprio che loro non hanno la storia, noi ce l'abbiamo, abbiamo. Senta, ma se lo Stato insiste e non vi concede nulla, ma le armi alla fine si possono prendere, sì o no? Me lo dica chiaramente, Chiave Gatto. Ma io credo che le armi non vanno mai prese. Mai. Perché noi non abbiamo mai usato armi e nemmeno ci pensiamo ad usarle. Ci sono molti sistemi democratici garantiti. Non dallo Stato italiano, ma garantiti dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo e dall'ONU, sì, che permettono ai popoli di autodeterminarsi. Vabbè, ma se non vi concedono nulla, alla fine uno dice: vabbè, adesso mi incazzo. Ma non è che ce lo devono concedere, è diritto. Quando la zanzarina. Guarda la zanzara, è incominciato a essere rincoglioniti, Passa in blanco, mañana io sono stanco. Vietare le manifestazioni dei violenti, vietare le manifestazioni dei violenti. Cavegato, lei che cosa farebbe con tutti questi immigrati che pare siano intenzionati a sbarcare in Italia perché li prendiamo con le, no, con le navi militari e le portiamo? Cosa farebbe con tutti questi extracomunitari? Le rispondo subito a questo. Volevo fare solo un appunto, visto che avete parlato di manifestazioni violente. Sì. Il 25 aprile, oltre ad essere la festa della liberazione per l'Italia, è anche il patrono San Marco. Vabbè, questo d'accordo, benissimo. Ricordo che lo Stato italiano vieta di esporre il gonfalone di San Marco a Piazza San Marco. Ma io non credo che se io oggi vado col gonfalone di San Marco mi arrestano. Dai, su, Chiavegato. Lei si vada ad informare. Sbagliato, se uno espone il gonfalone di San Marco a Piazza San Marco ed viene arrestato, non credo che... Parlano già di 500 poliziotti a Piazza San Marco. Addirittura. Seguitela, ma io spero di no. Spero. E poi vedremo. Se questa ma è per libertà, lei 25 aprile cos'è, per esempio? Per me 25 aprile è San Marco. Il resto non gliene frega niente, la liberazione, il fascismo. La festa del patrono... E anche il compleanno di mio papà per quello. Che anche il compleanno di Rodotà, ecco, questa non la sapevo. No, di mio papà, di Rodotà, di mio padre. Il padre di Parezzo, di cui non ce ne frega niente. Come? Va bene, auguri allora. No, ecco, auguri. Quindi sì, lei certo. Grazie, Chiavegato. Quindi lei si ricorda di queste tre cose: festa della liberazione dai nazisti. No, la liberazione non gliene frega niente a Chiavegato. Ma invece deve ricordarsi. Ma non gliene frega niente, giusto, Chiavegato? Ma come si permette di dire che non frega niente? Non gli interessa. Ma dai nazisti, dai nazisti. Ma non gli interessa a Chiavegato, gli interessa la festa di San Marco. Ma vabbè, può festeggiare San Marco, la liberazione e anche come. Ma non gliene importa nulla della liberazione. Insiste ancora. Senta, ma questo tanco alla fine che cos'era? Diciamo la verità, cioè Chiavegà, secondo lei che cos'era? Era una ruspa, come hanno visto tutti quanti, e basta, fine. Ma non c'era nessun i magistrati tanco, che cosa sono? Nessuna arma di distruzione di massa. Ma cosa volevano fare quelli che... Con la ruspetta. Guardi, che volevano fare con la ruspetta? Guardi, io questo non lo so. Una gitarella a Piazza San Marco, una roba sulla tangenziale. A San Marco quel mezzo lì non ci arrivava assolutamente perché sarebbe sprofondato. Beh, una volta ci è arrivato però un mezzo. Beh, sì. Ma era un camion. Un camion. Leggero. Senta, ma i PM che cosa c'erano in testa quando vi hanno arrestato, secondo lei? Erano bacati in testa? Che cos'erano? Ma io li capisco anche. Perché sa, li capisce? Capisco anche, ma li capisco perché questi qua hanno visto che i veneti si stanno rompendo le scatole. Sì. Hanno visto che i veneti hanno fatto un plebiscito online dove 2 milioni di veneti hanno votato questo. Hanno detto questi qua si stanno montando la testa e diamogli una bastonata. Ma lei è candidato allora? No, che candidato? Sì, Chiavegato. Voleva candidarsi lei, Chiavegato. Io alle prossime regionali credo ed auspico che sia, vabbè, sono lontano. che sia ora che tutte le forze politiche venete si mettano assieme. Quindi per anche andare con la Lega. A proposito, per dichiarare l'indipendenza. Vabbè, secondo lei la Lega ha un po' cavalcato la vostra vicenda? Oggi Salvini è andato di nuovo davanti al carcere, eccetera. Guardi, ecco, sulla Lega io ho già espresso, ho già ringraziato chi ci ha dato la solidarietà, perché la solidarietà ci è stata data trasversale. Ma prima vi trattavano come delle bestie, vi trattavano come dei paria. Loro fanno la loro politica di autonomia, di federalismo e adesso ci hanno messo anche la parola indipendenza. Noi parliamo di indipendenza e basta, che è una cosa completamente diversa. Lo so, appunto. Ma dunque hanno un po' approfittato della situazione per cavalcare, no o no? Io li ringrazio per la solidarietà che ci hanno dato, perché la solidarietà, ripeto, va sempre... Ma per lei Napolitano che cos'è? Napolitano è il Presidente della Repubblica Italiana. Vabbè, ma questo lo so pure io. Ma per lei che cosa rappresenta? Una persona da rispettare? Il Presidente di uno Stato straniero? Il Presidente di una nazione occupante? Che cos'è? No, Napolitano io dico solo una cosa. e poi ognuno tiri le proprie conclusioni. No, è il capo dello Stato che aveva promesso che non si sarebbe ricandidato. Vabbè, ma quello lo sanno tutti, dai. E l'ha mancata, appunto. A parte che non è vero, che non l'ha mai detto esplicitamente, l'ha fatto trapelare, eccetera, eccetera. Però, ma al di là di questo, è il capo di una nazione occupante, secondo la sua visione? Beh, per me gli italiani sono occupanti. Gli italiani, cioè io sarei per esempio... Non c'è nessun documento, sono occupanti da nessuna parte dove sia scritto che il Veneto è diventato italiano attraverso un percorso. Vabbè, ma ormai è roba fatta, è finita, è roba dell'Ottocento, abbiamo chiuso, parliamo dell'oggi. La storia è la storia, se poi la storia la vogliono scrivere in maniera sbagliata, diciamo così. Grazie, a presto. Mi raccomando, A presto, chiave gara, non si faccia. Auguri per il papà. No, non si faccia rimettere in galera, non si faccia riacchiappare, chiave gara. Al limite scappi da Putin. O no? È un grande Putin? Chiave gara. I russi lo amano. E allora? E quindi vuol dire che qualcosa di buono ha fatto, non stanno a giudicare. I gay non troppo, non lo amano troppo i gay. Beh, insomma, quella è una scelta sua. È un'altra cosa, È un'altra cosa. È un'altra cosa. A presto, ciao. Ma vabbè, ma Cruciani ormai è diventato un sovietico. Allora, innanzitutto voglio dirvi che voi due a volte mi fate talmente incavolare che sareste veramente da sberle, però vi ascolto sempre. Venuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comodo. Ricompare nelle trasmissioni televisive Alessandra Mussolini, ormai non si tiene più, dice che farà campagna elettorale per le europee dove è candidata, con una cintura e con un LED che porta anche al collo, collare. Lampeggiante, sì, l'ho visto. Un lampeggiante che tra l'altro con la luce non si capisce una sega, bisogna spegnere la luce, ma non è che negli studi televisivi si spengono le luci. Sì. Comunque, vabbè, è un modo così. È un modo peraltro per fare campagna, un modo come un altro di fare campagna elettorale. Mussolini. La senatrice Mussolini ci ha portato un modo singolare, molto spending review per non fare i cartelloni, niente, non farò manifesti, non farò niente, avrò europea. Questa cinta LED e una maglietta LED, questa sarà la mia campagna elettorale. Quindi suo Forza Italia lei lo esprime eccolo qua. Tranquilla, senza fare imbrattare i muri, e ormai bisogna adeguarsi a quelle che sono le novità. Bisogna adeguarsi alle novità. Il fatto è che uno non c'ha una lira, questo è il punto. Non c'è un euro da spendere. Perché in altri momenti, ricordo le regionali, la stessa Mussolini aveva riempito i muri della capitale del Lazio, diciamola tutta. Che adesso non ci stanno più euro, non ci sono più i danè per fare la campagna elettorale come una volta. E nessuno li dà in giro, né Berlusconi né altri. Questo zucco. Questo è forte, questo è ma forte. Non hai detto che oggi è una giornata fondamentale? No, aspetta, non lascia perdere con le tue cazzate, che è la giornata della terra, che cos'è? L'amore, l'amore per la terra. Sì, come l'amore per la terra, come? Va bene, ma perché uno deve campare per forza con le giornate mondiali per la terra, le giornate mondiali? No, lo sapevo che non so che c'era pure la giornata della marijuana il 20 di aprile. Quella ma ho capito, ma chi se ne frega? Quella ha già senso. Sì, ma non niente, 365 giorni di minchiate, la giornata mondiale dell'acqua, la giornata mondiale del fagiano, la giornata mondiale del fagiano non c'è. Ma sì, ci sarà anche quello, prima o poi ci sarà anche quello del fagiano, non ma non c'è la giornata mondiale dei froci, per esempio? Non c'è, ci sarà, no? C'è il gay pride, ma no, certo. Ma il gay pride, ci sarà la giornata mondiale dei froci pure. 365 giorni disseminati di minchiate. Spettacolare. Facciamo la giornata mondiale di tutto. Ma questo è il conduttore? Allora, la provincia di Bolzano, aspetta. Nel 2013 ha speso 8 milioni per 4.000 incarichi. E vabbè, fino a qua ci può stare, no? Tra questi incarichi, il bon ton, i corsi di bon ton, amici miei! La virtuosa provincia di Bolzano. Corsi di bon ton, corsi di educazione sessuale. Tra questi corsi c'è anche come inviare una mail, vi assicuro, siccome è un genio chi si è assicurato questi corsi. Datemi a me un corso di educazione sessuale, no, di bon ton, no. Sì. Di no, bon di ton, ton no. Di bon no, ton no. Questo non è. Però come inviare una mail sarei forte anche qui, come inviare una mail. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh? No, sì, no, in Germania questi corsi non li fanno, non danno non i soldi per queste minchiate. Dubito. Invece dubito. Un'altra minchiata è la polemica sulla partecipazione di Renzi alla partita del cuore di Emergency, sì, pochi giorni prima delle elezioni europee. Vi posso dire che è veramente in diretta sulla Rai, sì, in diretta sulla Rai, i tuoi amici. Certo. No, i miei amici, non, io non ho nessun amico, per cui ma una polemica ridicola. Non solo i 5 Stelle, ma anche Brunetta, anche Forza Italia, una polemica patetica. Ma scusate, ma il presidente del Consiglio, che è il presidente del Consiglio, non può partecipare alla partita del cuore con Emergency tre giorni prima delle elezioni europee? Ma cosa può cambiare in diretta alla Rai? Vedere Renzi che gioca a pallone, cosa può cambiare? Ma veramente non vi attaccate a tutto, cari grillini. Bravo. Tra l'altro, i grillini perdono tempo in cose assurde. Un candidato alle elezioni europee vuole querelare Crozza. Lo vuole querelare, tu lo sai perché? No. Perché l'ha preso in giro. Tu non sai mai niente, innanzitutto. No. C'è un candidato, il secondo più votato in Italia, che si chiama Della Negra. Sì, tutto Della relativo, Matteo Della Negra. Votato, vabbè, con i click, con la democrazia appunto, dei click. Appunto. Sì, per modo di dire. Il secondo più votato in Italia tra i grillini con i click, già è una cosa particolare. Il quale, insomma, si diletta a cantare senza molto successo. Sentiamolo mentre canta questo signor Della Negra. Definitiva, limite di due mandati elettorali, sia la preferenza diretta al voto. Vabbè, la canzone è agghiacciante perché il riassume testo è deboluccio. Riassume tutto quello che vuole fare il Movimento 5 Stelle. Sembro io quando canto Servi di Roma Fuori, che del Rom, il testo sembra. Vabbè, ma ognuno può fare quello che vuole su internet, no? Ci mancherebbe. Per esempio, così si è candidato, senti, il video della presentazione. Fammi sentire aspetta, un attimo perché ti faccio sentire. Mi rimetti di buon umore. Pure tu, vabbè, trovati ognuno rete, crea un meetup, manda a fanculo chiunque, di che in Germania pure lo fanno, la mozzarella mangiala solo in Campania. Chilometro zero, chilometro zero. Vabbè, però a parte che è meglio lui di Parenzo, è meglio lui a cantare, no, non è male, dai, è normale, dai. Cioè, è agghiacciante il testo. Però senti la presentazione di questo Matteo Della Negra, stiamo facendo pubblicità Della Negra, tra l'altro. Della Negra. Corruzione, concussione. Ciao, mi chiamo Matteo Della Negra, ho 35 anni e sono di Grosseto, dalla cui spiaggia faccio questo video con cui presento la mia candidatura alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle. Sono attivo con il movimento dal 2010, sono diplomato in ragioneria con il massimo dei voti, ho studiato pianoforte in conservatorio e le note che state ascoltando fanno parte di una delle mie composizioni, mi sembrava una cosa carina. Vieni, sediamoci pure, questa sera offro io, tu lo sai che cosa ordinare, mi conosci, sai che fare. Cara amica che si ascolta. Vabbè ragazzi, è chiaro che è quello che è, però ognuno fa quello che vuole in rete, no? Si candida con le canzoni, prova a fare il cantante, è apparso pure in qualche trasmissione, adesso non mi ricordo quale. Viene preso letteralmente per il culo da Crozza in questo modo. Ci sono molti malati di mente in Germania, lo dico io, sono il primo, io sono il primo malato di mente, ma ce ne sono tanti. E anche il Movimento 5 Stelle ha i suoi aule europee. Il Movimento 5 Stelle addirittura si gioca i jolly. Fra i tanti, dalle consultazioni online, è uscito finalmente un vero leader, uno che in Europa potrebbe fare la differenza. Matteo Della Negra. Beppe, scusa, guardami un attimo. Ma non, Beppe, non c'è un filtro. Non puoi mettere un piccolo argine alla rete. Sono ragazzi meravigliosi. Venire gente meravigliosa. Bisogna mandarli in Europa, ma non subito. Prima bisogna curarli. Belì non puoi mica mandare in Europa così. Hai visto come si muove? Belì vanno in Europa, chiedono la parola in Parlamento, gli danno un microfono, si mettono a cantare, si incazzano tutti. Belì, scoppia la guerra, perdiamo, ci invadono i tedeschi, ci liberano gli americani, ci portano le gomme da masticare, le ingoiano i delfini, muoiono i delfini. Che cazzo mi è venuto in mente di candidare sto coglione che fa morire i delfini? Allora, per una cosa del genere, qui tra l'altro Crozza imitava Grillo, vabbè, insomma è male secondo me, lo vuole portare in tribunale, Della Negra vuole querelare, vuole portare in tribunale Crozza, perché gli ha dato del coglione indirettamente, l'ha chiamato malato di mente e cose di questo tipo. Comunque, Grillo, spieghiamo bene questa candidatura, caro Grillo, la spieghi bene lei che ci può illuminare questo Della Negra. Cosa? Ma uno che si chiama. Ma perché solo un cretino come te non può capire? C'è un mondo da salvare, gente nuova, ragazzi, per bene. Ma ha visto, questo qua canta. Cioè, te le canta in testa rispetto a questi ladroni. Ora c'è un altro che abbiamo candidato, vuole salvare le balene del Mozambico, ad esempio. Piccolo dettaglio: non ci sono né balene né Mozambico, non c'è un cazzo. E cosa gliene frega un candidato italiano di votare uno che salva le balene in Mozambico? Ma sono candidati vostri, Grillo. Ma certo, ma lo fanno ovunque. Ma cosa? Anche in Germania. Cosa fanno? Salvare candidare uno che si occupa delle balene, è il futuro. Ma è cosa? Pieno di bracconieri. E non parlo di bracconieri. Hanno candidato infatti anche un bracconiere. C'è uno di Fratelli d'Italia che è un bracconiere. È un violento, ma un bracconiere. Ma non c'entra niente. Si chiama bracconiere. Bracconieri di cognome. Ma non sai niente, sei un cretino. Ma non si chiama bracconiere. È un bracconiere. Uno che caccia gli animali, ma le no, balene. È un attore. Non ma c'entra... non è una, è un bracconiere. Sì, c'è scritto bracconieri sulla scheda. Ma bracconieri. Non è vero. Ho letto male, si vede Casaleggio. Che cazzo mi hai detto? Ma avevano detto che era così. Un bracconiere. Allora ho detto, vabbè, candidiamo uno per le salvare le balene. Lasciamo perdere TG3. Ma quale TG3? È morto. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il governo ha posto la fiducia sul decreto per il lavoro. Scontro nella maggioranza su apprendistato e contratti. Poletti, urgente, approvarlo. Il nuovo centrodestra voterà la fiducia alla Camera, ma promette battaglie al Senato. Padoan farà crescere l'occupazione. Riforma del Senato, i 5 Stelle pronti a sostenere la proposta della minoranza PD. Chiti, non ritireremo il disegno di legge. Renzi firma la declassificazione degli atti sulle stragi, a maggio via il segreto sulla morte di Ilaria Alpi, Grillo un bluff. In condizioni stabili Marco Pannella, operato d'urgenza nella notte per un aneurisma all'aorta, affetto bipartisan per il leader radicale. Una frana di 20.000 metri cubi di roccia nella notte a Courmayeur, sopra il luogo di Gabrieli, il paese non è off limits. Non me moleste moschito. Allora lo troviamo noi, il fidanzato al ministro Boschi, siamo specializzati, ministro non si preoccupi, si scherza ma non troppo. Per cui mandateci alla segreteria telefonica stavolta, astenersi, perdi tempo. Maiali altro, ecco. Ridatemi il numero, eccolo. 02 46 52 40 10. Ripeto, mandate 02 46 52 40 10. Caro Parenzo, ha ragione Grillo, questa roba della declassificazione del segreto di Stato là è un bluff totale. Lo immaginavo. È un bluff totale, va benissimo, vedremo. Io non dico. Ma perché un bluff? Per me perché è un bluff devi totale. Dire che è un bluff? Perché è un bluff, non è che uno con una bacchetta magica, con una disposizione, con un comunicato. E come si fa? Svela la il segreto declassificazione di Stato. Senti, non è così. Ci sono, non è così. Adesso non è il caso di fare un dibattito alla no, Zanzara. Ma infatti si ti assicuro, di ti assicuro che poi nello spirito mi dirai, con cui fatte mi dirai le cose. Fra qualche mese una roba che viene fuori da questa cosa qui. Ma una cosa. Questo è un sono altro disposto, tema. Sono disposto. Ma questo è un altro a discorso. Giocarmi tutto quello che vuoi, che da questa roba di Renzi non viene fuori nulla. No, ma non zero. Di Renzi, cioè da questi atti è non viene fuori nulla. Ma totale, questo è un altro è discorso. Un bluff però totale. Per ora c'è il segreto. Ma fino quale oggi c'era il segreto. Ma non c'è un bluff totale. Come, non è vero. E te lo farò spiegare da gente che ne sa. Ettore da Milano, non è vero, non è così. Ettore da Milano. Qualcuno ha deciso il top secret è su degli un bluff, atti? È un bluff. Ha ragione Grillo, è un bluff. Ettore da Milano. Luciani, buonasera, sono un tassista di Milano. Vai, buonasera, tassista. Ottimo. Senti una cosa, ma come mai che Parenzo, tutto quello, io sono d'accordo con te quasi su tutto. Parenzo è sempre contro di te, di tutto quello che tu dici. Ma questo no, va bene, Ettore, ma non, su è, tutto. Non è una non cosa... È vero. Non è vero. Ma io vorrei dire a Parenzo, la giornata della terra, che lui non sa neanche cosa vuol dire una vanga. Primo, tutte le cazzate questo che manco dice, io. Eh? Questo nemmeno io so cosa vuol dire la giornata della terra, ma comunque insomma lasciamo perdere. Poi... ma io dico, ma è possibile che Parenzo, tra l'altro l'ho portato anche sul taxi, sì, no? Ah, è sempre contro di te su tutto. Ma va benissimo, ma magari fosse sempre così, non sempre, ma sulle manifestazioni che io sono d'accordo con te, perché se tu vuoi protestare devi andare a viso aperto, tutte quelle cose lì, non vai con le bombe, con le bombe. Ma sono d'accordo anch'io, Ettore, su questo, che non si va nelle manifestazioni travisate, sono d'accordo no, anch'io. No, ma bisogna proibirle, quelle in cui c'è gente che si prepara ad andare travisati con i bastoni, capito? Ma sono questioni di ordine pubblico, se non l'hanno fatto fino ad oggi è solo perché non vogliono creare tensioni ulteriori, ma sono d'accordo anch'io con Polito, con quello che ha scritto. Non bisogna sempre porgere l'altra guancia, ma non bisogna sempre porgere l'altra guancia. Io mi sono incavolato con te per la calpestatina, non per altro. Chi va alle manifestazioni col volto coperto va preso e fermato, perché è contra legge. La calpestatina, quella è stata una piccola calpestatina. No, ecco. Bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao. Per amore. Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu. Dolce amaro notte. Ma che figo che è! Come va? Meglio? Hai visto? Le ho salvato la vita. Ce lo ricordi quando andrà a votare alle europee? A proposito di elezioni, vi ho portato i volantini, va bene? Vi piacciono questi? Per chi vota Forza Italia, ci avete la possibilità di avere una dentiera gratis, oppure la visita veterinaria gratis, oppure addirittura un check-up completo. Siete contenti? Io posso avere tutte e tre? Certo, se fai votare anche tua moglie e tua nipote, certo. Ma io non ci ho più nessuno, io sono solo. Come ti capisco. Filippo da Vicenza, buonasera Filippo. buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera Parenzo anche. Ciao caro, grazie Filippo. Stacco il mio voce. Vai, stacca Filippo, dimmi. Sì, ecco, adesso magari mi sentite meglio. Io volevo dire a lei, ma soprattutto a Parenzo, sì, caro, che abbiamo fondato il fan club di Riccardo da Roma. Beh, sì, lo so che è stato fondato un fan club di Riccardo da Roma, sì, lo so. Cioè. Sì, su Facebook siamo una sessantina. Sì. E sì. Quando è intervenuto la settimana scorsa? Sì, una sessantina di perdi giorno. Un ritorno di voce però, Non ho capito. È la mia, una sessantina di perdigiorno. Ma perché questo uno è che fa un club su Facebook è un perdigiorno, non ho capito. No, sì, ma perdigiorno, ed è sei un pagliaccio radica il chic, l'ho già detto. Vabbè, pagliaccio, Parenzo, pagliaccio radica il chic, dove vai, da Terese? Vabbè, non la sai fare l'imitazione di Riccardo, dai. 2.000-3.000 euro. Vabbè Filippo, non la sai fare l'imitazione di Riccardo, però, allora... dai, non fa ridere purtroppo. No, Riccardo è il numero uno veramente, è intervenuto la settimana scorsa. Sì? Sì. E lo sappiamo, noi vorremmo che fosse un ospite fisso. Vedremo cosa possiamo fare. Chi, scusi, noi chi adesso ormai tutti dicono sì, noi. Però volevamo, no, anzi, se volevamo, se chi volevamo mettersi in contatto con lui, sì, addirittura volevamo conoscerlo perché è veramente il numero uno. Vabbè, ma lei proprio non fa, cioè, hai capito, Parenzo? Sì. Da uno spaccato del paese. Vabbè, Filippo, c'è gente che non fa un cazzo, possiamo dire almeno questo, no? È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Fan cazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io in giro. Io giro, ne faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche coi rasta, fazze, i cannoni, coi libri. Oppure andiamo al centro sociale, ma vattene a fanculo, ma vai a lavorare, impara un mestiere. Poi si lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati i lavori li danno tutti agli immigrati. E te credo, te ce la fa cazzo. Questo comunque è numero uno, è filosofo della contemporaneità. È imbattibile, però, è imbattibile. È imbattibile, non c'è niente da fare. Dai, è imbattibile, al di là di come uno possa pensare, è numero uno. Dai, su, devi ammettere che è numero uno. Ma io ho mai detto. Allora, c'è un attico in Vaticano di 700 metri quadrati circa, signor Bertone, occupato dal signor Bertone, mentre il Papa è in una stanza di 70 metri quadrati. 60. Questo accade. Don Paolo Farinella, lei che dice, Don Paolo? Sono 600 metri quadrati più 100 di terrazzo. Ah, scusi, scusi, 600 più 100. Lei che dice? Siamo precisi perché deve prendere l'eminenza, deve prendere anche aria, capisce? Quindi... Ma certo. Scusi, Farinella, una curiosità volevo chiedere, sono Parenzo, no, non è, è serio, perché si dice eminenza grigia in genere, come modo di... Come? No, volevo capire da lei, che è un uomo di chiesa, perché si usa l'espressione eminenza grigia? Ma perché? Mica si usa per i prelati, si usa in generale. In generale si usa grigia. Per la chiesa, certo. Perché l'eminenza grigia... Ma fallo spiegare a lui. L'eminenza qui era detto con derisione, perché appunto. Io... Lei si vergogna, quando, si vergogna di essere... Quando mi riferisco... Quando scrivo oppure parlo col mio vescovo, che è cardinale, non lo chiamo mica eminenza. Scusi un attimo. Io lo chiamo signor cardinale. Certo, sì. Farinella, lei si vergogna di essere genovese come Bertone? È sicuro che veramente si deve vergognare lui, non io. No, ma però lei si vergogna di essere genovese. Non penso che lui sia un prete, ecco. Come non è un prete, come? Scusi? Ha voglia altro che prete. Un familiarista. Ma come fa finta? Farinella. È un miscredente, sta dimostrando proprio quello che è. Addirittura? È quello che è sempre stato. Cioè, che cosa è stato, scusi? Io lo conosco molto bene. Se è stato E ci racconti qualcosa di Bertone? A Genova non è un uomo di fede. Non è un uomo di fede, che cos'è? Non è soltanto di potere. Se fosse stato un uomo di fede, finito il servizio, se ne sarebbe andato dai salesiani, come ha fatto il cardinale Martini, che se ne è ritornato dai gesuiti. A Gerusalemme viveva in una stanzetta piccolissima, e a Gallarate viveva in una stanza anche, e invece? Con un lettino, una scrivania, ecco. E invece? Cosa ci fa con 700 metri quadrati? E che ne so, lo sa lei? Avrà il campo da golf, forse userà il pastorale per giocare a golf. Non e lo la so. Mitria per buca, non lo so. Ma scusi un attimo, io voglio capire una cosa, ma è una vergogna, uno scandalo? Come mai Bertone? No, più che scandalo è un'indecenza e anche una scemenza da parte sua. Perché è chiaro che è un gesto che vuole, a mio parere, non è che sia un dogma, però ho la sensazione che sia un affronto al Papa. Ma pare che il Papa sia leggermente arrabbiato da questa cosa qua. Il Papa non è arrabbiato, credo che sia incazzato e abbia le donde di essere incazziato, insomma, per uno che ha fatto quello che ha fatto Bertone, cioè che ha messo il precedente Papa nelle condizioni di dimettersi con tutte le gaffe che ha fatto, con l'incapacità che ha dimostrato. Adesso questo qui si va a prendere ancora 700 metri quadri, che mi sembra proprio fatto apposta nel momento giusto. Ma che cosa ci fa secondo lei? La pubblicità progresso per la campagna dell'8 per 1000, no? Beh, perfetto, sì, certamente è perfetto, guardi. C'è una tempistica. Ma secondo lei Don Farinella, lui cos'è? Più un agente immobiliare forse, allora? No, lei dice? No, non è un imbecille, basta. No, un imbecille, ma non si può dire, no? Se ha detto un imbecille. Perché non si può dire? Si può dire qua. Ma non si può. Mi è arrivato oggi la rivista dei Deoniani di Bologna, quelli dell'editrice Deoniane di Bologna. Scrivono questo pezzettino qui. A un anno dall'inizio del suo pontificato, il Papa Francesco è sempre più ammirato e amato dalle genti, dentro e fuori la Chiesa, è sempre più guardato con sospetto, scetticismo e contrarietà da una parte consistente delle gerarchie ecclesiastiche. Vabbè, allora... Questo è la rivista, ma che andrebbe fatto con Papa, con Bertone? Cosa gli farebbe lei a Bertone? Io semplicemente lo prenderei e lo dimetterei da cardinale. Lo dimetterebbe subito da cardinale? Sì. C'è altro che 700 metri quadrati. E lo manderei nella Cayenne a cavar pietre. Lo comanderei nella Cayenne proprio. Cioè lo manderebbe nella diocesi più remota possibile a cavare pietre, dice lei. Sì, lo manderei proprio direttamente in carcere, scusa. Nella Pampas argentina. Via lontano dal Vaticano, il più possibile lontano. Lontano da dal Vaticano. Ma non si può. Noi viviamo a contatto con la gente che muore di fame. E invece questo qua 700. Poi arriva questo Bertuellato. Io in un mio romanzo lo chiamo Tarcisio Burlone. Tarcisio Burlone. E lo è. E lo è Burlone. Ma... per forza, uno che gioca così, senza ma che ritegno, fa? Ma che fa? In un contesto, sì, in un contesto sociale come l'attuale, sì, in cui lui, dopo un papa che va a vivere, sì, in 70 metri quadri, dove ci fa tutto, ci riceve, sì, questo e quell'altro, arriva questo e si prende 700 metri quadri. Uno schifo. Rispetto a lui, mi dica lei se non è una provocazione, se non è un insulto. Schifo, uno no, schifo, uno schifo, diciamo la verità. Uno schifo, uno schifo. Uno schifo. Scusi un attimo, ma è vero che ci sono dei prelati, come oggi si legge, un alto prelato ufficialmente fidanzato con un coreografo, che fanno serate pensate intorno a una sauna installata dentro un appartamento nel centro di Roma? Ma sarà vero tutto questo che si legge sui giornali o no? Cosa hanno fatto? Che pare che ci sia un prelato fidanzato ufficialmente con un coreografo. Ma può darsi, ma lì dentro sono pieni, cioè quello è pieno di froci, che meraviglia, lo ha ammesso anche il Papa, sì, che in Vaticano c'è la lobby dei gay, no? Ma è pieno di froci secondo lei? Come? È pieno di froci in Vaticano? Così, sì, tanto per... io non li chiamerei mai, ma no, froci, perché ho molto rispetto per, no, ma anch'io ho molto per rispetto, le persone di tendenze sessuali diverse. Però è pieno. Dico, è pienissimo. C'è un libro Vatican and the Sex che sì, ma anche Bertone, cose... no? Bertone, no. Bertone, questo non lo so, questo no. Bertone, non no, mi sembra, non mi sembra capace. In che senso capace, scusi? Ma non mi sembra che sia interessato, come dire, capace, nel senso di così è talmente abertuellato, si dice a Genova, che vuol dire? Non è, cioè che vuol non, dire? È stupido e basta. Non ci arriva, ma non è che poi c'è sì, l'ha messo, non è che Bertone l'ha minacciata di qualcosa, lei che parla così esplicitamente? No, abbiamo avuto delle liti furibonde, immagino. E anche delle lettere pubbliche che io ho pubblicato, la vabbè, sua, la mia e quella di Don Paolo, l'abbraccio, a presto, grazie, a presto, d'accordo, ciao caro, ciao. Pace bene a tutti. Pubblicità. Definito da Yellow Times come il primo conto corrente che ti dà 3 buoni motivi per cambiare banca. Che banca presenta Conto Yellow, interessi trimestrali, accesso ai fondi più gialli del mercato, bancomat innovativo per i tuoi acquisti online. Conto Yellow, tutto il giallo in un conto. Aprilo ora, fino al 31 dicembre 2014 il canone è zero. Foglio documento informativo su chebanca.it. Interessi su giacenze medie trimestrali non vincolate maggiori di 5.000 euro. Che banca? Scegli il giallo. La Zanzara. Marco, provincia di Varese. Marco, provincia di Varese. Marco? Sì, buonasera, ciao. Andiamo, su. No, niente, io avevo chiamato per entrare nel merito della vicenda di Crozza con Matteo Della Nera. Io sono un consigliere comunale a Busto Arsizio. Di chi? Di SEL, di sì, Sinistra Ecologia e Libertà, tanto per sì, intenderci, dove c'è il vostro amico Speroni. Sì. Io non ho visto l'altra sera la trasmissione, ho sentito per radio 10 minuti fa, mezz'oretta fa, la vicenda. Sì. E volevo solo intervenire dicendo che Matteo Della Nera è un amico, sì, eppure di un altro schieramento politico che magari non condivido, e che le dichiarazioni di Crozza sono assolutamente gratuite e prive di senso. Sì, ma non sono di dichiarazioni di Crozza. Sì, ma scusi però, Marco, va bene tutto, ma non è che Crozza fa delle dichiarazioni, cioè non è che un capo politico che fa delle dichiarazioni, è un comico, cioè è un comico, sì, però, uno che fa satira. Però ci sono dei comici che io non ne nascondo, Crozza mi piace come comico, mi fa divertire, però questa volta non penso solo perché è entrato nel merito di una persona, no, che conosco, sì, e ha preso un abbaglio, però ha usato dei toni che non gli rendono onore, insomma, quindi sì, però, ci tenevo da amico a però dare, scusi a Marco, io capisco che sì, ma d'accordo, capisco che è suo amico, infatti noi non l'abbiamo preso per il culo per i video in cui canta, va benissimo, uno può fare quello che vuole nella vita e poi si può candidare, prima può fare anche lo spazzino, o il che ne so, quello che pulisce i cessi e poi si candida alle elezioni europee, va bene, lui ha fatto il cantante, voleva entrare nel mondo dello spettacolo forse, e poi ha deciso di candidarsi, benissimo, certo, ma Crozza l'ha preso, certo, in giro, punto, l'ha preso in giro per una roba, ma in maniera assolutamente gratuita, cioè ci deve essere, ma che vuol dire gratuita? Satira. Ha trovato dei video online o gliel'hanno fatti vedere e l'ha preso in giro, punto, basta. Però allora evidentemente Crozza ha dimenticato, allora lei dice che ce l'ha coi 5 stelle. Scusi, lei dice che ce l'ha coi 5 stelle Crozza, allora? No, questo a me non interessa, devo dire la verità. Quello e allora, cosa, allora, che co- allora che cosa? Scusi, o ce l'ha con 5 Stelle oppure semplicemente ha preso spunto da una roba che ha visto su internet per fare satira? Sarebbe stato più opportuno che entrasse nel merito politico. Ma quale merito politico? Ma non fa il politico il commentatore Grozza, fa un altro mestiere, Marco, su. Ma quando attacca i politici, li attacca forte di situazioni di ambito politico. Vabbè. È entrato nel personale di un ragazzo che conosco, che a prescindere adesso quello che sta facendo, no, certo, che io avrei preferito lo facesse in un'altra area, si è assolutamente impegnato per arrivare a quello per cui poi si è candidato. Va bene, Marco, facciamo così. Allora, lei ci procuri una intervista con Della Negra, che è amico suo. Ah, bravo, sì, certo. Sì. Lo faccia venire qui alla Zanzara, garantisce io, lei. Se vuole, se vuole, dopo mi passi la regia, lascerò i riferimenti bene. Di Matteo Della Negra. Grazie, Marco, grazie. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So allora, Dino da Torino, Dino. Pronto? Sì, vai. Ciao, scusa, forse l'emozione. Vai, no, Dino, mi ricollegavo all'amico Riccardo di Roma, che è l'unico di spesso che forse può avere è quello di essere da Roma. Io sono un gobbo, però detto questo, mi collega a quella. Non ho capito, Dino, scusa, vuoi parlare? Io Ventino, dice. Sì, ho capito, vuoi parlare a voce alta, perché sennò non capiamo nulla, dai. Sono al telefono. No, lo so che sei al telefono, non è che sei via satellite, cioè è chiaro che sei al telefono. Ma certo che sei al cellulare. Allora? No, dicevo, mi volevo collegare a Riccardo di Roma, quando ha chiamato l'altra settimana, sì. Dove parlava con Parenzo, dove insomma lo accusava di essere un perbenista, un... Vabbè, un, allora... volevo chiedere solo all'amico Parenzo, che conosce, sì. conosce Borghezio, di sì. farsi accompagnare nei campi rom che ci sono a Torino, e più precisamente lungo il suo Lazio. Così si rende conto di come vivono questa gente e cosa fanno intervenisti come lui nei confronti di queste persone. Una completa sponda di un fiume, del fiume Stura, occupato tipo favela di Rio de Janeiro, di gente che brancola nel buio, senza niente, senza mangiare, senza niente, tutti i giorni nei bidoni di notizia, si faccia accompagnare da Borghezio a fare un giro lì e vedere cosa fanno questa gente che viene 4 giorni. No. Ma guardi, quei campi lì dovrebbero essere presi e smantellati dopo un secondo, fosse certo, per me, dopo bravo, un secondo netto, sono d'accordo. Un secondo. Cruciani, certo. Ma io ti inviterei veramente con Borghezio a farti fare un giro. Ma non c'è bisogno che mi inviti, Borghezio mi invita da solo, non ti preoccupare. No, ma perché non te ne rendi conto, credimi Cruciani. Non te ne rendi conto di come vivono questa gente. Va bene, dovete Antonio, Reggio Emilia, guardi, secondo me quei campi dovrebbero essere smantellati in 2 secondi quando non ci sono. Cioè, quando uno vive in un posto, lo occupa con una baracca, cioè quella roba lì va smantellata. Cioè, ma non c'è dubbio. Antonio da Reggio Emilia, dai. Buonasera, Cruciani, buonasera. Dimmi. In merito a Papa Bergoglio, io ho la supposizione che. Ma da dove chiama? Da dove chiama? Dall'oltretomba. Dalla cripta. Da dove chiama? Io chiamo la Reggio Emilia, guarda. Sì, ma lei ha il viva voce, che cosa ha? No, non ho il viva voce. E allora non si può sentire questa roba. Gianfranco da Genova, dai. Eccoci. Vai, Cruciani, Gianfranco. Grazie per darmi la possibilità di esprimere la mia inquietudine. Siamo veramente Italia Land, certe cose possono succedere solo da noi. Non è possibile, abbiamo centinaia, migliaia di evasori e ti ripeto, nonostante non sia un berlusconiano, abbiamo questo ultra settantenne che va a cambiare i pannoloni, cioè abbiamo una classe politica che non riesce a capire l'ironia di un comico e telefona, avevi ragione te quando gli dicevi ma quello fa dell'ironia, fa il comico, abbiamo avuto generazioni di comici al Bagaglino che prendevano in giro comici della Prima Repubblica e c'è chi non capisce, siamo veramente allo sbando, io veramente non so più. Adesso non esageriamo, non è che siamo allo sbando. Qui c'è uno, è particolarmente sensibile, evidentemente, che appena dovrebbe essere contento che Crozza lo ha preso in giro. Cioè, ma chi è questo Matteo Della Negra? Non è nessuno minuti. Per adesso. È candidato alle elezioni europee del Movimento 5 Stelle. Crozza l'ha preso in giro nel suo show, è andato su tutti i giornali, su tutto il web, su tutti i siti, eccetera. Dovrebbe essere contento, dovrebbe ringraziare. Ma qui va tutto bene fin tanto che non toccano qualcuno dei nostri. Quando toccano qualcuno dei nostri, la leva chiamata degli scudi. Allora, va bene lì Berlusconi, ma in un paese di evasori, ma quanti dovremmo averne condannati in 3 gradi di giudizio a fare attività socialmente utili nelle case di cura? Dovremmo averne un intero paese, centinaia di migliaia di persone, e invece ci abbiamo mandato Berlusconi. Qui abbiamo Dell'Utri che probabilmente verrà anche estradato, ci abbiamo i due Marò serenamente da 2 anni dimenticati, quello? Ci siamo già dimenticati perché abbiamo una memoria corta che è qualcosa di incredibile, di Battisti in Brasile, nessuno lo reclama più, ma siamo veramente un paese che è una comica, ci prendono per il culo dappertutto, ma hanno ragione, fanno bene, non può che essere così, perché non sappiamo derbelinarci, come direbbe qualche duro, siamo veramente, siamo allo sbando, siamo in mano a nessuno, Cruciani. Oh, c'è un esponente dei 5 Stelle molto conosciuto che si chiama Di Battista. Tu lo conosci Di Battista, no? Ma scherzi, ma certo. Lo conosci, no? Come? In un comizio a Sassari. Compagno di Battista. A un certo punto, durante un comizio a Sassari, interviene un bambino. Un bambino di 8-9 anni, almeno così sembra dalle immagini. Sai che adesso Di Battista fa i comizi praticamente per terra o in piedi con la gente intorno, no? Cioè non è un comizio vero e proprio sul palco. Di Battista, l'uomo più noto dei 5 Stelle in Parlamento. Belloccio. Uno dei più noti, sì, il belloccio dei 5 Stelle, ma anche bravo a parlare, eccetera. A un certo punto dà il microfono a questo bambino di 8-9 anni. Senti. Per me è Forza Italia, a me non mi piace perché fa schifo, quelli lì non meritano niente, neanche di governare l'Italia, hanno governato male l'Italia, quindi io voto per 5 Stelle. Scusate, è un sardo molto basso? O ci sono degli OGM incredibili qui a Sardegna? Cioè io non ho parole, ma cioè questi sono i prodotti sardi. Un bambino di 8-9 anni. Beh, è di cattivo gusto la battuta sui sardi, però. Ah no, vabbè, bisogna leggere il contesto. Le grandi teorie di Di Battista: tette, calcio e sangue, cioè la cronaca nera, per assuefare il popolo. Questa è una roba che si diceva quando? 20 anni fa, no? 94. Che in televisione facevano vedere, no, anche prima, facevano vedere le tette, il calcio e la cronaca nera, così, per addormentare le nostre menti. A Di Battista, aggiornate, dai, su. E ai giornali? Che vengono finanziati dalle nostre tasse per mentire e per, come dire, assuefare il popolo con tette, calcio e sangue, perché questo fanno soprattutto i giornali, non informano realmente, non informano. Belle donne, calcio e casi di cronaca nera che intimoriscono l'essere umano. Ma perché uno si deve avventurare in queste cazzate? Cioè, io non lo capisco io. Alessandro dalla provincia di Lucca. Sì. Dimmi. No, due cose. La prima praticamente che sono. Ma oggi perché si sentono male questi qua? Perché si sentono male? Il mio telefono. Maurizio da Roma. Non si sente, Maurizio, buonasera. Dai. Buonasera. Oh, buonasera. Finalmente, dai. Velocissimo. Intanto un saluto. Com'è che candidiamo in Europa persone che non parlano e scrivono almeno l'inglese? Questa è la mia domanda. Abbiamo pensato che il Parlamento europeo è un altro ente inutile. Io vorrei che i miei parlamentari in Europa parlassero almeno l'inglese e lo scrivessero. Guarda, ti rispondo subito, Maurizio. Le elezioni europee sono una enorme buffonata, perché tutta quell'apparecchiatura là non conta assolutamente nulla. Non è vero. Vabbè, Parenzo, adesso perché sei andato al Parlamento europeo a fare le tue lezioni, a fare i tuoi servizi, ci rompi i coglioni, dai, su. No, ma lo sai meglio di me. Lo dicevi fino all'altro giorno. Non è vero, allora, ma perché ho scoperto la codecisione, ma non è vero. Senti, quello che hai scoperto non mi interessa. Io so solo una cosa. Il 75% delle leggi tra la Commissione e il Parlamento. Parenzo, quell'affare lì non sarebbe da eliminare, sarebbe da chiudere e da eliminare, sarebbe da chiudere e da Strasburgo, tirare giù la serranda, la doppia sede, e chiuderlo. La doppia sede, ma non ma Bruxelles. Tanto è inutile che i parlamentari che vanno lì, i nostri ma parlamentari. Ma sai quanti sono i parlamentari senti, europei? Senti, Davide, non mi rompere le scatole con queste cose, se non me ne fotte nulla. Se devi fare la tua canea anti-europeista, perché ormai è allora, figo a dire Parenzo via l'Europa. Piace il Parlamento europeo, molto. Uno degli enti più inutili moltissimo. Che esistano. Mi piace moltissimo. Inutile, totalmente molto. Inutile. Totalmente moltissimo. Inutile. Tant'è che gli italiani che ci vanno, o ci vanno per svernare, o ci vanno per poi passare al Parlamento italiano. Bello. Sicuramente sono i più assenteisti, bello. Tra i più assenteisti bello. D'Europa. Questo beh, è il risultato. Questo che c'entra. Ma perché non conta nulla? È non una è passerella. Vero. Tutti gli altri ci sono. Vabbè, arrivederci, ciao. Sono tempi duri. Vado a stare sveglio. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Sai cos'è che mi tiene sveglio quando è troppo. Siamo con noi, caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara, ritorno non da sottosegretario, ma da capolista, cioè si ripresenta a cercare i voti. Da quanto tempo è che non cercava i voti per se stesso? Che cos'è quello che è? No, da quello che era prima, amici, che da quello che era prima, non mi ricordavo, insomma, sottosegretario, deputato, fondatore, com'è? Tutto bene? Tutto bene. Gianfranco Micichè, già incazzato con noi. Abbiamo detto nulla. Senti, Micichè, sei felice che il signor Cruciani ha appena detto che non conterai un cazzo da quando andrai in Europa? Giusto? No, io diciamo così. Non ne ho idea. Non credo che sia così. Spero almeno che non sia così. Ma do you speak English, Gianfranco? English, yes. I speak English. You speak English. Do you think European Parliament? No, excuse me, Mr. Michi, che è anche difficile per allora, che cosa voi che cosa state organizzando? Ho capito già la puntata di oggi, ho capito che il Parlamento conta o non conta. No, quello adesso non ci avventuriamo in queste cose qua. Il Parlamento europeo non conterà nulla. Conta invece. Non conta nulla. Michi, che doveva trovare. Quanti sono i deputati europei? Non lo sai nessuno, quanti sono, mai, quanti sono i parlamentari europei, Michi? Quelli sono 87. No, in tutto. Non ne ho idea. Sono 750. In Italia. 750. Se pensiamo che solo l'Italia ne ha 600. Bravo. Bravo. Parlamento, tra Parlamento. Bravo. E tra Senato e Camera. Sì. Ne ha molti di più. Sì. E lì rappresenta milioni di persone, però, al Parlamento. Guarda europeo, che andare da Palermo fino a Strasburgo è un casino. Lo so bene. C'è un volo fantastico che però per me, che vengo da Palermo, è lontanissimo, da Comiso. Da Comiso, dalla base militare. Hanno fatto uno splendido Comiso e... Comiso Strasburgo. Che cazzo l'hanno fatto fare Comiso Bruxelles? Scusa. Non so io perché che cazzo hanno fatto fare. L'ho fatto. Comiso. Ma andrebbe cancellato l'aeroporto di Comiso, diciamo la verità. Ma che ci sta? L'aeroporto. Quello di Comiso non andrebbe cancellato proprio. Vedi che tutela il territorio. Comunque, Michele, a me vi sta simpaticissimo. Spero che sia eletto al Parlamento europeo, è capolista in Sicilia. E se il suo amico Gibino le fa arrivare un po' di voti, perché mi sa che il coordinatore della Sicilia fa un gioco contro di lei. Mi pare chiaro questo qua, caro Michele. Questo è evidente a tutti. Adesso lei lo negherà. Non è vero. Lei lo negherà. Lei lo negherà. Ma che ne so. Ma è così, dai. Siete i tenutari della verità. No, noi no. Noi siamo i tenutari del casino. Siamo i tenutari. Quelli siamo noi. Poi diciamo siete quelli che ci date del materiale per questa roba qua. Però io voglio chiedere subito a Gianfranco Micichè delle cose un minimo serie. Micichè in Europa. Sei partito Topolino. Ma no, ma non insultare così. No, ma guarda che sarebbe un grandissimo parlamentare europeo. Ottimo. Noi, io sarei ottimo. Fisso a Strasburgo con la Zanzara a fare casino. Ma che stai scherzando con Micichè? Ma chi sarebbe un buon deputato? Ma io ti posso dire una cosa. Dimmi. Cortoledo, vedi che la Micichè fino ad oggi è l'unico che in Sicilia almeno ha portato delle cose importanti che ha fatto? Sì, ha fatto le autostrade, la Catania Siracusa, la Messina, cioè, hai fatto tu la Catania Siracusa, hai costruito la Catania Siracusa e la Palermo Messina. Dai Gianfra, su. Scusami, ho fatto in modo che arrivassero i finanziamenti, che non è una cosa da poco. Ma dai, te lo garantisco. Vabbè, poi vedremo questa cosa qua. Sono io che ho fatto la Catania Siracusa e la Palermo Messina, dai. Non è che l'ho fatta io con le mie mani. Ma no, ma quello... Magari non sarei stato capace, ma è stata realizzata. Ma se ancora mancano un sacco di chilometri, manca. Finanziamenti siamo riusciti a far arrivare. Perché devi essere sempre così negativo? No, io non sono negativo. No, sei insopportabile, lo so. Ma io sono di mio, sono negativo su tutto, così... No. Vabbè, comunque io voglio capire una cosa, voglio capire una sola cosa da te. Al di là di quello che succede in Sicilia, dei fatti vostri, che non ce ne frega niente, all'italiano non è che interessa, litigi tra te, come si chiama quello, Iacolino, Gibino, tutti questi nomi strani. Perché finiscono tutti in Ino poi, Gibino, Iacolino? Vabbè, è curiosa sta cosa, no? Al di là di questo, Dell'Utri, secondo te, il tuo amico Dell'Utri, so che tu quando parli di Dell'Utri se diventi andava poi serio. Candidato, dai. No, lascia perdere, ecco appunto, per salvarsi non andava candidato? Certo. No, non poteva essere candidato, secondo la norma Savarino. Ah, già è vero che è condannato, sì. Condannato in via definitiva. Che minchiate che dite? Sì, è vero, questa è una minchiata. No, all'estero, sì. Questa è una minchiata. La prima l'abbiamo detto, andiamo. Andiamo avanti. All'estero. Ma secondo te è un perseguitato? È un perseguitato. Certamente, a me, come dire, come voi sapete bene, io sono convinto del contrario di quello di cui è convinta la magistratura. Ma è una mia convinzione, me la tengo. Come dire, loro, cioè, sono, ma lo ritieni un perseguitato dalla magistratura? Me, ovviamente. No, ma certo, ma lo ritieni uno che la magistratura l'ha voluto colpire a tutti i costi proprio perché sta con Berlusconi, non so perché. Non è un problema, non è di perseguitato, è un problema di uno che è stato accusato, secondo me, giustamente. Ma insomma, è inutile che ripetiamo sempre la stessa storia sul Gelluso. Cioè, se questo tanto lo dirò a vita, io finché come dire, continuo a non pensare che Gelluso sia un mafioso. Poi, cioè, non è un mafioso, secondo te? Secondo me no, ma insomma, ognuno poi, come dire, ci sarà. E Mangano, la storia di Mangano, qualcuno, per esempio, Mangano, anche tu lo consideri un giorno qualcuno che dimostrerà, che mi dimostrerà il contrario, vuol dire, farò un visa cattiva sorte, ma oggi come oggi continuo a essere convinto che non sia così. Che non sia un mafioso, ma anche per te Mangano, per il fatto che non ha parlato, è da considerare un eroe, il signor Mangano? Se noi dobbiamo parlare di Mangano, dobbiamo parlare di quello che realmente è successo. Dell'Utri ha detto che siccome Mangano è stato come dire stimolato, chiamiamo così, a parlare contro di lui, Berlusconi, a dire, se l'avesse fatto sarebbe uscito di galera e sarebbe stato tranquillamente a casa sua, il fatto che non ha voluto dire una cosa che non era la verità, su questo, no, ma lo sappiamo, questo lo fa un eroe, ma non è che è un eroe perché è mafioso, questo è ovvio, non è certamente così, ammesso che lo sia, un eroe perché... Ma anche per te è così? Come? Anche per te può essere classificato come eroe, dato che non ha parlato? Di nuovo ci vai. No, è una domanda. Siccome non ha parlato, nonostante il fatto che non sia stimolato. Ma è un eroe perché non ha parlato. Considerato quello che gli hanno fatto, le cose gli stimoli, chiamiamoli così, che gli hanno fatto per parlare, il fatto che non l'abbia fatto, certamente ne fa una persona che, per quanto mi riguarda, è comunque una persona di coraggio. Punto. Una persona di coraggio, vabbè, diverso, eroe oppure di coraggio, per te è una persona di coraggio. Va benissimo, per carità. Cioè, poi è stato accusato di varie cose, la mafia, però è di coraggio. Su quel punto, non viene risparmiato assolutamente il mio giudizio negativo, ma su quella, io ripeto quello che ha detto Dell'Utri e lo spiego con... No, ma io voglio capire quello che pensi tu, non quello che ha detto Dell'Utri, che me frega, quello lo so, quello che ha detto Dell'Utri. Come si fa la domanda, è un eroe Mangano? È ovvio che un mafioso non è un eroe. Sì, però per quello che non ha parlato, però, siccome... Il significato dell'eroe che ha tirato fuori Dell'Utri era un significato che aveva questo senso, e quindi non altro. Tu fai l'esegesi di Dell'Utri in questo senso, però meglio che lo faccia. Senti, ma Toti ha detto una cosa, tu sai chi è Toti? Sì, lo so. Lo sai, come l'hai saputo? Lo sai. Secondo me è pure uno bravo. È uno bravo, sì. Certo che qualche volta uno dice delle cose che non pensa, è incredibile. Non è vero, non è vero. È strepitoso. Guarda, non sono uno che mi sono mai tirato indietro. Vabbè, non lo diresti. È giusto anche che tu non, è giusto anche che tu non lo dica. È giusto anche se lo pensi, è giusto che tu non lo dica. Te lo dico proprio, guarda. No, ma non lo penso. Vabbè, comunque. Non lo direi. Secondo me non l'ha ancora dimostrato di essere bravo. Comunque, va bene. È bravo, è certamente uno bravo. Poi se dimostrerà di saper fare pure politica, secondo me ha fatto bingo, ma lui è certamente ancora non sa fare politica, dici tu? Chi la sa fare appena hai iniziato? No, ma è una domanda, ma perché uno ancora non sa fare politica? Sto rispondendo con grande serenità. Certo. Chi sa fare politica all'inizio? Io nessuno credo in fuoco, appunto. Per cui il ruolo che gli hanno dato è un po', insomma, no, è un po' esagerato, no? Cioè, forse doveva farsi le ossa in qualche altra cosa prima, o no? Ma quando la gente va in politica, tutti dicono che volete sempre gente nuova, a far avere gente nuova, io? Dite che non ha esperienza. Io non ho detto. Allora, o prendiamo soltanto quelli che hanno esperienza, quindi sempre gli stessi alla micchia, oppure prendiamo qualcuno nuovo. Se è nuovo, esperienza non deve avere. Ma io, vorrei, ma tu che sei? Cruciano o Parenzo? Io vorrei 100 micchie. No, questo è Cruciano. Io sono Cruciano. Come sempre Cruciano. Però voglio dire una cosa su Toti. Oggi ha detto una cosa. Aspetta che adesso arrivo. Aspetta. Oggi Toti ha detto una cosa, signor Toti. Ha detto che, anzi ieri, ha detto che tutti i candidati dovrebbero fare un'esperienza come fa Berlusconi con gli anziani e servizi sociali. La grande trovata di Toti, che mi pare una minchiata. A me mi pare una minchiata. Hai parlato in spagnolo, esperienza. No, sì, vabbè, ho sbagliato. Un'esperienza come fa quella, come fa Berlusconi con gli anziani e servizio sociale. A me pare che questa qua sia una minchiata. Non è che tutti quanti devono fare un'esperienza. Tu la farai questa esperienza? Spero di no. Nel senso che se lo voglio fare lo farò andando sul treno per Lourdes e lo farò di mia iniziativa, non perché mi ci mandano coattivamente. No, vabbè, questo sì, però non lo fai, cioè non lo devi fare per forza. Non è previsto nei prossimi... Non è previsto nella campagna elettorale fare... Esatto, la campagna elettorale non è previsto che lo faccia. Andare con gli anziani. Indirettamente ci ha detto che questa idea è una minchiata. Dai, su, adesso non lo vuole dire, ma mi pare una minchiata questa idea, o no? Gianfranco, alla siciliana. Non mi riguarda, è una cosa che non... Che in questo momento io non posso e non voglio fare. Bravo, lo vedi che però parla chiaramente, cioè l'idea di Todi dice no, io non mi interessa, non voglio fare lo stesso che perché tutti quanti i candidati devono fare quello che fa Berlusconi, servizi sociali, ma su questa ragione amici che è, perché lo devono fare per forza? Certo, scusa, abbi pazienza, ma ha ragione Scajola quando protesta perché non è stato candidato con delle cose piuttosto pretestuose, secondo me? Secondo me sì, posso dire la verità. Io l'avrei candidato Scajola. Ottimo, ottimo, ottimo. Perché scusa, il garantismo non è che può essere a corrente alternata. Se uno è stato assolto. Non è stato neanche condannato. Scusa, assolto. Io l'avrei candidato. Ma lui dice che l'hanno fatto apposta perché sennò Todi là a nord non prendevano abbastanza non voti. Non credo. Non mi risulta che Berlusconi ragioni così. Ma lo ha candidato perché gli sembrava che fosse negativo farlo. Ma non ha sbagliato in questo caso, secondo te? Come? Ha sbagliato in questo caso, secondo te? Sbagliato? Io ti ho detto, l'avrei candidato, punto. Quindi questo ti devo dire. Che ha un po' la lingua sciolta stasera, anzi no, di solito è sempre così, è sempre piuttosto sincero, più o meno. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Gestione del risparmio, le parole di Arca. Un saluto. La domanda di oggi è la seguente. Perché investire in azioni di società quotate? Risponde Simone Binismaghi, vice direttore generale, responsabile direzione sviluppo e marketing di Arca SGR. Investimento in azioni di società quotate permette di beneficiare della redditività e della crescita delle società, riflesse nella valutazione del mercato. L'investimento in azioni permette di beneficiare dei profitti delle società e nel contempo rappresenta una difesa del valore reale dell'investimento dall'inflazione, salvo fallimento dell'emittente. Vai su radio24.it, entra nella sezione Gestione del risparmio alle parole di Arca e inviaci la tua domanda. La zanzara. La zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara stronza. Scusa, in Sicilia tu per chi fa il tifo, Parenzo? Nella lista di Forza Italia, cioè fosse per te, chi eleggeresti? Micciche, chi c'è poi là? Ah, la signora Citino, che non è male, quella che abbiamo. Beh, parla inglese, francese benissimo, sicuramente. Fammi esprimere, va? A me è simpatico Gianfranco, molto, però. Poi? Dai. Dai. Vabbè, poi fammi esprimere, dai. Io personalmente conosco solo Michiche, gli altri conosco. Tu fai l'endorsement per Michiche. No, non so se lo stai aiutando. Ma io non voto in Sicilia, ma non voto in Sicilia, capito? Cioè, pur essendomi molto cara la Sicilia per un sacco di ragioni, ci ho abitato, eccetera, Siracusa e tutto quello che vogliamo, però non è che non voto lì, non voto Ortigia, lì. Ortigia bellissima. Ortigia, un sacco di roba. Allora, possiamo dire una cosa, Gianfranco, diciamolo qui, se non piglio almeno 100.000 voti sono un coglione. Diciamo. 100.000 voti, tu sei pazzo. Sei un coglione a pensarlo. E quanti ne vuoi prendere? Certamente di meno. Cioè, quando è che il limite ci sarà? Intanto ci sarà un livello di astensionismo bestiale, per cui i voti saranno la metà di quelli che si possono avere. Poi Forza Italia non ha più il 30% che aveva l'ultima volta. Vabbè, allora quindi? Per cui, come dire, possiamo dire che sotto una certa cifra non conto più un cazzo? Cioè questo... No, sì, lo posso dire. Che cifra è? Dimmi. Se non vengo eletto. Vabbè, se non viene eletto, quello potrebbe esserci uno più bravo di te. Magari tu prendi un sacco di voti e uno è più bravo di te. No. Ah, come? Se non vengo eletto, sono un coglione. Se non vengo eletto, un coglione ci sei tu. Io, se non vengo eletto, non conto più nulla politicamente. Oh, beh, questo è già un coglione nel senso politico, mica un coglione in assoluto. No, sì, ho capito, sempre un coglione politicamente parlando. Politicamente, certo. Cioè, mica in favoloso sondaggio di Libero. La Boschi cerca un fidanzato. Comunque, per quanti voti, a quanti voti punti per chiudere il discorso sui voti? 50. 40.000. Guarda, è difficilissimo capire quanti voti si potranno avere. Cioè, se arrivo dopo Iacolino sono un coglione, si può dire o no? Se arrivi dietro Iacolino sono un coglione, si può dire però, sì. No, un coglione. coglione. Se arrivo dietro il Iacolino vuol dire che conto di meno di quanto contavo prima, anzi non conto più nulla. Sondaggio di libero.it: la Boschi cerca un fidanzato, chi è l'uomo giusto? Tu lo sai chi c'è tra le risposte, Parenzo? Sì, c'è, con il 32% Rocco Siffredi, con l'11% Balotelli, con 9% Renzi, ti giuro. Fabrizio, chi è il primo? Siffredi, vabbè, tutti votano Siffredi. Il primo Siffredi, il primo signor Siffredi col 32%, poi Balotelli 11%, Renzi 9%, Corona 8%, Gabriel Garco 6%, PIF 5%, che cos'è non le 5%? A me sta cosa che la Boschi cerca un fidanzato mi fa impazzire. Ti piace la Boschi, Gianfranco? È molto carino. Sì. Molto carino, eh. Ma dice che Berlusconi impazzisce per la Boschi, è vero o no? No, non lo so. Non ma idea. Tu che ci parli? L'ultima volta ci avrei parlato... Io che parlo, quindi chiunque parla con Berlusconi lui gli dice... Che... Ma non fisicamente, dal punto di vista politico. Ma finisci, no. Ma ha un'ammirazione, ma è vero, ha un'ammirazione per la Boschi, ma... Beh, sì, lo dice sempre. Va bene, il diritto di averlo. Io non ho idea di come la pensi Berlusconi sulla Boschi. Comunque, dimmi la verità, tu se Alfano e i suoi non entrano al Parlamento Europeo, godi, eh? Diciamo la verità, godi. No, sai cos'è? Che se loro non entrano al Parlamento Europeo, noi prendiamo sicuramente un deputato in più, perché è più facile che io venga eletto. Per cui godi, se non entra. In questo senso godi. Se non prende il 4 Alfano, se Alfano non piglia il 4, poi tu quando Alfano perde godi, dai, diciamo la verità, cioè, un po' godi. È giusto che sia così, la politica è fatta anche in questo modo, è fatta anche di sangue e merda, è fatta anche di sentimenti. È giusto che sia così. Diciamo che è così. Ma appunto, giusto o sbagliato, la politica è fatta anche di queste non cose. Non mi pare però impegna carichissimo per questa campagna elettorale. No, è carico. È carichissimo. Chi ha parlato? Cioè, Parenzo dice che non sei carico per la campagna elettorale. Sento, ma finisce, Parenzo. Ti sento proprio spento un no, po'. No, è carico. No, guarda, sono accesissimo. Fai una proposta strabiliante. Ma non qual so, è la proposta? Se, dove, qualora dovessi essere eletto... Una proposta strabiliante non ce l'ho. Sicuramente la carica giusta per fare la campagna elettorale. Votatemi, vi faccio una strada da Catania, anzi da Racalmuto a Varese. Bellissimo. Ma che c'è una strada? Facciamo il ponte Palermo-Bruxelles. Bellissimo. Ma come il ponte Palermo-Bruxelles? Un ponte. Si può fare tutto. Ma chi se frega? Facciamo un grandissimo ponte Palermo-Bruxelles, non ce lo voglio nessuno. Comunque Berlusconi che deve fare in questa campagna elettorale? Su cosa deve puntare? Che deve inventare? Andare con gli anziani, farsi fotografare con gli anziani come un pazzo? Che deve fare? Che si deve inventare? Secondo me quello ci sta pure. Ci sta pure, eh? Sì. Cioè, che deve fare con gli anziani? Cioè, fare comunque, dimostrare, no? Stare lì, farsi fotografare? Che cosa vuoi dire? Cosa deve fare con gli anziani? Sentiamo, mi piace. Che cosa tu sai che io, guarda, in tempi non sospetti, forse lo sai perché ci siamo sentiti alcune volte, io dissi a settembre, ad agosto, che Berlusconi doveva dimettersi da senatore subito, andare a chiedere subito i servizi sociali, iniziarli da settembre dell'anno scorso e fare tutta una campagna elettorale sugli anziani e sui servizi sociali. Questo lo dissi in tempi non sospetti, caro. Beh, poteva anche funzionare. Poteva anche funzionare, non era una cattiva idea. Ma amico mio, io dovrei far consigliere, altro che... E ti propongo? Ma no, non lo so, quando sarà, quando non c'ho più, quando mi cacceranno da qua... Quando chi ti deve cacciare? Ma no, mi cacciano. Qualcuno mi vuole cacciare, magari me ne vado io, che ne sai? Cioè... Senti ragazzi, va bene, va. Vabbè, ciao. Fate i bravi, mi raccomando. Ma dove vai adesso, a mangiarti il pane con la meuzza? No, pane che a me uso in campagna elettorale è mortale. Ma adesso di che campi, Giafra? Come? Nel senso... Ce l'hai i soldi? No, nel senso buono, devo dire. Ma ce l'hai i soldi per campare? Ce ne ho pochi. Ma perché pochi? Quelli che ho me li faccio abbassare. Ce l'hai come pochi? Come ho sempre fatto nella mia vita. Ce n'è pochi, vabbè. Ah, guarda Gianfranco, che giovedì. Il Parlamento Europeo serve pure a quello se guadagnano un sacco di soldi. Giovedì sera sono ad Augusta, se vuoi venire a trovarmi. Ad Augusta? Sì, devo andare ad Augusta. No, che comizio, fa per Matrix. Faccio ad Augusta, dove ci sono tutti gli sbarchi dei migranti. Quindi se vuoi vieni ad Augusta. Ad Augusta non c'è nessuno sbarco, ma che stai a dire? Come no? Ma non c'è niente ad Augusta. Informati. Ma quando mai? Sono tutti... Informati. Ma va. Gianfranco, ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao, caro amico mio. Vedi che minchiate che dite, oh. La zanzara è quell'odioso insetto. Ottima trasmissione, sempre la visione. Eccoci qui, Matteo da Vicenza, buonasera. Matteo? Matteo? Sergio Bergamo. Pronto? Dimmi. Cruz Speciali, buonasera. Parenzo, buonasera. Sì, levati il viva voce, quello che è, sennò ti strozzo. No, l'ho levato. Vai, dimmi. Io volevo intervenire sull'argomento dei manifestanti violenti. E fare una provocazione, che potrebbe essere anche una proposta. Sì. Allora, quando io affitto un appartamento, sì, il proprietario, sì, e lo dice anche il codice civile, sì, mi chiede all'atto della sottoscrizione una cauzione, sì, oppure una fideiussione. Sì. Beh, i manifestanti è come se affittassero una piazza. Allora, prima della manifestazione mi danno una cauzione, fanno una fideiussione, se provocano dei danni, sì, giusto, io trattengo la cauzione e la fideiussione per riparare i danni che loro provocano. C'era già una proposta su questo, certo. C'è già una proposta? Sì, sì. Ah, certo. Allora arrivo tardi, mi dispiace. Però no, è giusto, no, intelligente. Ma... sì, si può fare, non... è difficile. È una cosa intelligente, giusto? Sì. Avviene sempre con le manifestazioni dei sindacati, ad esempio. Sì. Che loro garantiscono quando chiedono l'autorizzazione per firmare. Ma in questi casi a chi si dovrebbe rivolgere uno? Al movimento per la casa, agli sfrattati? Casi, quando questi bubù qualunque arriva lì in questura, perché comunque le manifestazioni autorizzate a chiedere l'autorizzazione così. Dovrebbe depositare un cosa. Vabbè, ma tanto per i danni che fanno spesso funziona ammontano così a centinaia di migliaia di euro. D'accordo, appunto, tanto più l'associazione è considerata, questo si potrebbe fare a punti, come dire borderline, tanto più aumenta il premio assicurativo e tanto più paghi. Sì, va bene pure questo. Per cui se è l'associazione Amici di Cruciani o Amici di San Francesco, sì, chiaramente saranno persone, come dire, dalla lingua tagliente ma poco violenti. Se invece ad esempio l'associazione Amici No Tav, beh lì magari uno può fare una cauzione un po' più altina. 200.000 euro per fare la manifestazione. Forse anche qualcosina di più, no, come cauzione. Certo, Massimiliano da Milano. Buonasera Cruciani, ciao Davide. Io appena ho saputo dell'esistenza del gruppo Riccardo Fan Club, sì, mi sono iscritto su Facebook. Beh, certo. E invito molti altri ascoltatori a fare altrettanto, perché quell'intervento, sì, è stato epocale. Con poche parole semplici, anche se piuttosto dirette, ha spiegato una grande verità. Mi dispiace che Parenzo ne abbia fatto le spese, però se l'è andata a cercare. No, le spese qui si battaglia, Si battaglia le spese. Ho capito, sai, che si battaglia, però capisci, David, cioè io sono favorevole alle manifestazioni, ma non sono favorevole alle manifestazioni violente. E neanch'io a questo, caro amico mio, neanch'io, sai. Sì, ma tu hai sempre una giustificazione, no, per tutto. No, nessuna giustificazione di niente. Hai ho detto che stavo dalla parte una parola del capo buona della polizia, ma nessuna parola buona per nessuno. No, sei dalla parte del capo della polizia, che invece in questo caso ha detto una stupidaggine, perché tutti i poliziotti tranne il capo della polizia pensano che il capo della polizia abbia detto una stupidaggine. Cioè, tutti i poliziotti non è che il fatto di essere chiamati non cretini quando devono ricevere impunità. Ma che c'entra l'impunità? Esiste poi specie per lo Stato. Mamma mia, specie per lo Stato. Ma non è successo come nulla. Quando abbiamo redarguito lo Stato quando paga in ritardo i privati, come abbiamo redarguito lo Stato. Mamma perché lo Stato mia deve essere il primo a comportarsi bene, sì, così avviene con la lo polizia. Lo Stato si deve comportare bene, i poliziotti libertas, si devono comportare bene, ti devono libertas chiedere i documenti prima, scusa, sei no, tu che hai tirato il razzo ad altezza d'uomo, nessuno sei tu che hai sparato una bomba carta in mezzo alla gente, nessuno allora ti posso dare questo una manganellata in testa, no, piccolina, no, ma smettila. No. Nessuno ha mai sostenuto questo, tutt'altro, nessuno. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. E mo quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure la babbiona, mo. Manco più nei programmi degli amici tuoi ti prendono, manco più nei programmi dei rossi, sei fallito, sei. Quella vecchia babbiona, ma che ha detto prima che è andata in pensione nel 75? Cioè siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. Quanti anni c'hai? Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 anni, sono 40 anni che sta in pensione, ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Babbiona! Mamma mia, secchie, secchie di merda, avete distrutto questo paese dal 68 e poi con questa propaganda idiota. Dateci il lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa, si mo vediamo tutto, non vedo. Ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose, meritare. Brucia quel tuo sorriso che mi fa... Matteo da Vicenza, buonasera. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Dimmi. Tette, sangue e calcio. Cominciamo dalle tette. Allora prendiamo per esempio il sito di libero.it. Varie notizie. In fondo di cosa mi racconta? Che adesso è di moda il bikini bridge, ovvero... Un attimo solo, un attimo. David, dove vai tu? Dimmi. Pure in Europa adesso vai, Boso. Pure in Europa ti hanno candidato. Ma perché ce l'hai con me? No, ma era una constatazione. Dico, pure adesso ti hanno candidato anche in Europa. Lo sai che io sono contento invece che hanno candidato Erminio in Europa. Ciao Erminio, come stai? Perché? No, sono contento che ti hanno candidato di nuovo candidato al Parlamento Europeo. Sono contentissimo. Va bene. Ma come mai sei tornato a candidarti dopo tanti non anni? Non lo so. T'hanno messo così a cazzo di cane, dici tu? Certo. Come certo? Senti, ma io voglio capire una cosa. Ma veramente vuoi essere eletto di nuovo in Europa? Cioè la farai la campagna elettorale oppure no, Erminio? Ha attaccato il telefono. Ma perché ha chiuso? Che ne so, Boso. Matteo, allora? Allora io potrei anche offendermi. Mi avete tolto la parola per darla a Boso. Beh, amico mio, però è candidato al Parlamento Europeo, cioè tu non conti un cazzo quello che è candidato al Parlamento Europeo, scusami. Ma con tutto il rispetto, il signor Boso ha già dimostrato di non valere un cazzo, secondo me. Vai tu, eh. Dai, su, ma ti devi cercare i voti, rispondi, dai Ermi, e dai. Vabbè, non risponde, dai. Matteo, allora? Vabbè, posso? Vai. Allora, il sito di Libero, quattro notizie di cronaca, di politica, e sì. In fondo è di moda il tight gap. Sai cos'è, vero? Che cos'è, scusa, il? Quando una donna è molto magra e ha i fianchi un po' larghi, sì. La luce passa tra il pube e l'alto coscia. Ma anche a noi... Questo è quello che insegna Libero. Ma che insegna? Semplicemente fa un articolo di costume, smettila, dai. Ma sì, sono... No, perché poi c'è anche il bikini bridge. E dunque? Ovvero, quando una è un po' magra e si mette a pancia in su sulla spiaggia e le ossa dell'ileo tengono il bikini un po' stretto, si vede il pelo pubico. Ma perché vuoi raccontare questa cosa? Spiegami. Perché secondo me, se hai dei pruriti interni, o vai su YouPorn e ti sfoghi su YouPorn, oppure? O ti leggi Travaglio, se vuoi fare un giornale serio, secondo me. Vabbè, dunque? Quindi, poi parliamo della Franzoni. Ma non ho capito, Matteo, perché ci stai raccontando queste cose? Spiegami, per dare ragione a Di Battista? Esatto. Bene, perché ci distraggono con le tette, col calcio e col sangue, giusto? Perfettamente. Ma chi? Ma magari distraggono te, a me non mi distraggono per niente, distraggono te. Secondo me voi avete un approccio che è liberissimo. Meno male, scusa, mercato. grazie che è liberissimo, grazie. No, è il vostro mercato, è il vostro pane. Che non approfondisce la materia. No, infatti noi facciamo un altro tipo di trasmissione, Matteo. L'hai capito o no? Sì, ma non solo voi. Sì, tutti. A me il caso della Franzoni... Ma la Franzoni non se ne parla più da anni. È finito tutto. Matteo, senti, mi hai rotto i coglioni. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Rosa, se va bene rosa, ma poi invece s'appoggia... S'abbruggia proprio addosso a me. No! Guarda che io sono un tossicodipendente della Zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Marco, provincia di Lucca, buonasera. Buonasera. Parenzo è fantastico. Sì, Marco, lei da dove sta chiamando? Da un centro di ascolto? Da un gabinetto. Andiamo su con sto viva voce. Allora, dicevo che Parenzo è una persona fantastica, continua a parlare di tutte le cose più inutili per esempio? Di questo paese. Per esempio? Dicendo, continua a parlare di questo discorso dei poliziotti cattivi, dei poliziotti... Parenzo, basta. Basta, lo sappiamo che te sei al libro paga, però basta. Di chi, basta, scusami, così mi rifaccio il muto? A un certo punto di chi sarai al libro paga, scusami? Di come veramente... Al libro paga di chi sarai al libro paga? Continua la gaff, continua la forza. Ma lo sai benissimo anche te, no? Gli anni tuoi d'oro, diciamo, avanti. Di figli dei fiori. Ascolta, volevo dire una cosa. Ma se sono del 76, sono Salame, ma quale figlio dei ma fiori? Di che parli? Salame? Il Salame? Salame? Sì, t'ha detto Salame. Salame, sono del 76, salame. Quale figlio dei fiori? Mica Valentino, sono... non farmi raccontare le tue vicende, Giovanni, li lascia perdere. Ti chiamo perché sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Ma racconta le mie vicende giovanili, le sanno tutti. Certo, racconta dove ero quando ero al ginnasio, racconta pure se raccontalo lo sai. Raccontalo te, quello che facevi, raccontalo te. Ma mica era un'associazione criminale, facevo politica col PDS, certo. Vabbè, allora... durante le occupazioni... E facevo le occupazioni, certo. Ah, in questo caso pure i poliziotti erano cattivi. Mai detto che i poliziotti erano cattivi. Salame al quadrato. Salame al quadrato. Mai detto che i poliziotti erano cattivi. E ho fatto Parenzo, l'occupazione. Sì, caro certo, Parenzo, l'ho fatto da ragazzo. Quando parli di grill della Shoah, sciacquati la bocca. Ma hai io capito? Voglio dire, ma tu lo connetti il cervello quando chiami o chiami sì, a cazzo lo connetto, proprio? Lo connetto. E allora, primo, cara, siccome hai parlato cara della mia vita privata di quando ero ragazzo, io da ragazzo ho fatto sì, le occupazioni, ho fatto sì, politica, non ho mai detto una sola parola contro i poliziotti, anche perché mio nonno era un questore e quindi conosco bene la materia, capito? Allora perché stai scatavetrando le scatole? Io adesso, siccome però le tue orecchie sono piene di cerume giallo e non te le lavi, io ho detto più volte, caro ascoltatore, che mi ha anche rotto parecchio i coglioni, sì? Perché se devi fare un attacco almeno documentati meglio, ho detto semplicemente... Io sono documentato, ma lo so che hai detto delle stupidaggini... Ma non hai mai fatto querela a nessuno, guarda, purtroppo. Che c'entra Parenza adesso? Cosa c'entra Parenza? Parenza perché lui si sta... Parenza, no? È femminile la versione. Cioè? Sì. Perché? Ecco. Perché? Dai, Cruciano, sai anche te? No, dai, lascia perdere. No, non lo so, dimmi. No, dica, vada avanti pure. Dimmi, dica. Lei non dica. Dai, ascolta, vada sto chiamando perché... No, vada avanti ora, vediamo, vada avanti, forza. Ma come perché? Perché lo sappiamo, no? Ma sappiamo cosa? Dai, vai avanti. Parenzo, vai avanti. Non ci preghi le 5 stelle. Vai avanti, vai avanti con la parolina amico in più mio, che ti sta per scattare. Mio, vai avanti, mio, vai avanti, Salame, vai avanti. Ma perché pensi che siamo pensi che Parenzo sia omosessuale? Vai avanti. Guarda, io non avrei niente contro gli omosessuali, però nel senso chi magari anni fa li criticava e poi dopo cambia bandiera mi fa un po' stupire. Ah, ho capito, cioè cosa sta dicendo? Ma lei vada avanti, ma sta delirando. No, fallo andare avanti, fallo andare avanti, così dai, cade da solo. Ciao Marco, avanti. Franco da Bari, Franco dimmi. Eccolo. Dimmi. Pronto? Dimmi. Sono Franco? Sì, sei Franco, fino a prova contraria sei Franco, dai. Ok, senti, mi fai la cortesia che sta quel Parenzo, che mi sembra uno messo lì per fare audience. Sì, per se fare mai, però è audience, secondo me. Sì. Comunque, poi, magari fosse così. Magari. Allora? Vabbè, Franco, m'hai rotto pure te. Paolo da Verona. Sì. Paolo da Verona. Sì, pronti. Dimmi, Paolo. Sì, ascolta, intervenivo sui 5 Stelle e compagnia bella. Inascoltabili, intrasmissibili, insentibili. Ma che si vergogna, ma da che pulpito? Intervengono sui comici quando sono guidati da un comico. Basta. Pure questo è vero, cioè, basta, è colpa nostra che li ascoltiamo ed è colpa vostra che li mettete in onda. Mamma mia, con questa storia su. Pronto? Francesca? Sì. Eccoci, Cruciani, ciao. Salve, ciao, buonasera. Francesca Cipriani, caro Parenzo. Applauso a Francesca. Molto bene, dai, molto applauso bene, a Francesca, molto bene, così, bene. Così, a de cazzum. Eccoci qui. Allora, Francesca Cipriani, showgirl, eccetera, eccetera. Ma cosa ti è capitato, cara Francesca? C'è il tuo fidanzato che ti ha preso a botte, leggo dappertutto. Allora, non è una situazione molto simpatica, purtroppo. Non c'è da ridere, non c'è da ridere, diciamo, no? No, purtroppo no. Avete visto le foto? Sì, ho visto qualche foto di qualche livido, eccetera. Ma spiegami una cosa, ma com'è successo intanto? Allora, io diciamo che l'avevo già lasciato la scorsa volta che era successa una cosa simile, anzi è successo più volte. Come diciamo, si chiama questo signore? Marco Pavanello, mi sembra, no? Sì. L'avevi già lasciato quando ti aveva messo la mano addosso una volta. Ma sì, ti picchia spesso o vi picchiate? Purtroppo è successo adesso, no, vi picchiate, no, perché io sono contro la violenza e contro, sì, contro l'alzare le mani, assolutamente. Ma lui ti picchia, aspetta, quanto state insieme intanto? Allora, diciamo che io poi l'avevo lasciato a settembre per un po' di mesi, non, sì, certo, ero molto, diciamo, traumatizzata da quello che era successo anche lì. Sì. E però era successo anche prima alcune volte, quindi era un po' un tira e molla, perché giustamente quando succede quando succedono queste cose, io penso che nessuna donna poi voglia più stare col proprio compagno, no, certo, no? Io poi voglio capire una cosa, però se questo qua è uno che ti picchia spesso, ma che ci stai a fare insieme, cara Francesca? Lo so, purtroppo lui poi me lo sono trovato di notte fuori con i fiori, i pupazzetti, ti amo, torna da me, insomma, ho cercato, vabbè, però... di vedere. Lo so, ho sbagliato, perché non vanno per... cioè, io pensavo che una persona per amore potesse cambiare, ho dato più ma volte che ti la ha possibilità. Fatto? L'ultima che volta ti che ti ha fatto? L'ultima volta? Il giorno di Pasqua ho sbagliato anch'io ad andare da lui, perché gli ho detto vieni qui a parlare, vediamo un attimo, era già venuto a Milano nei scorsi giorni, è venuto in un locale di Milano, mi ha tirato fuori con la forza, capito, tutta mia, insomma, lui non accettava il fatto che... cioè, si è parlato di gelosia da parte mia quando è proprio l'opposta, la cosa opposta di quello, cioè, che... cioè, è arrivato un messaggio, che è successo? È arrivato un messaggio... No, allora, lui stava cercando di recuperare dicendo vi amo, insomma, qua e sì, là, che stiamo di riprovare magari anche di convivere insieme, insomma, sì, tutti questi discorsi, e dopo poco... ha suonato il suo telefono sulla lavatrice, lui non riusciva a rispondere, ha detto vedi un attimo chi è... E c'erano dei messaggi... Di chi, diciamo, erano questi messaggi? Di una prostituta. Una prostituta? Purtroppo sì. Cioè, lo ha chiamato una prostituta. Ma come, no, fai a sapere chiamato, che non... come, cioè, fai a sapere che è una prostituta? Sì, la conoscono tutti in zona, non lavora, sanno che fa, insomma, questo tipo di lavoro. Ma chi era? Una conosciuta? In zona sì, come prostituta sì, è molto conosciuta, infatti ha un nome d'arte anche in giro, non si fa chiamare con il proprio nome, insomma, una ragazza che avevo conosciuto anche una serata come ospite in un luogo, lei era lì che mi si era avvicinata. Ma chi è, un transessuale, no? Credo di no, non è un trans, sembra un po' dal viso, vabbè, non è molto ha ricevuto bella, comunque... ha ricevuto dei messaggi da una prostituta. Tu ti sei arrabbiata evidentemente. Io non ho neanche parlato, nel senso ho visto messaggi hard, messaggi tra lui e la prostituta, e quindi diciamo che appena visto che ho visto... Che ti ha fatto? Sì, tu adesso ti uccidi, ha visto che, cioè, dopo qualche minuto prima recuperiamo, ti amo... vediamo un attimo di riprendere in mano la storia, e dopo invece qualche giorno prima aveva avuto rapporti con la prostituta, per cui la situazione è questa, insomma. Ma ho capito, che ti ha fatto concretamente? Mi ha riempito di botte, dalla testa ai piedi. E tu? Mi ha messo le mani al collo e ha cercato di soffocarmi quando io non respiravo più. E tu? Gli ho dato un calcio ai testicoli per scappare fuori di casa. La cosa è successa a casa sua. Sì, però adesso, Francesca, scusa, abbi pazienza. Basta. Adesso basta, però. Denunzialo, certo, scusa. Certo, ragazzi, certo, rischiato di morire. Per cui è una persona che ha problemi e che va... Io ma problemi volte solo. Gli ho detto che lo volevo accompagnare dallo psicologo, perché è una persona che ha molti problemi. Però scusa, che problemi ha? Droghe, molti cose? Molti problemi, psicologici, dei problemi. Una persona che non sta bene, droghe, che ha dei problemi. Droghe, ha dei problemi, adesso io non posso dirvi più di tanto. Però io dico una cosa, Francesca, io dico una cosa. Siccome è da un po' di tempo che ci stai insieme, o che comunque lo frequenti, poi pure un'altra volta un'altra persona ti ha messo le mani addosso, c'è una denuncia, l'elemora, non so che cosa. No, attenzione, l'elemora è riconducibile a lui, perché lui ci aveva messo contro a me l'elemora. Ho capito, quindi... ma perché uno... ma non puoi frequentare delle brave persone, scusa. Dai, il mondo è pieno. E lui all'inizio sembrava una bravissima persona, cosa vi posso dire? Mi aveva, diciamo, cercato di conquistare. No, beh, all'inizio era quello che sembrava. Ma adesso appena... dove sta? Ti segue? Che fa? No, adesso non mi segue. Ieri ha telefonato, ha continuato a farmi nato. Hai paura? Perché... hai paura di questo signore? Sì, hai paura. Abbastanza. Hai paura, però che fa? Sì. Ma gira armato, no? Sì. Dica cosa? Armato di cosa? Come armato? Di coltello. Coltello. Purtroppo ha minacciato anche il mio ex di 6 anni. Sì, ha tirato fuori il coltello anche in un'occasione. Ma non è che qua ci viene a minacciare pure a noi, no? Perché l'abbiamo chiamato, no? Cioè... il coltello a serramanico molto grande. L'ha tirato più volte anche in autostrada quando qualcuno ci ha sorpassato. Lui ha abbassato il finestrino, ha minacciato di morte la gente. Ma io capito, ma come fai? Ma come fai a stare con personaggi del genere? Perché io volevo farlo cambiare. Io. Vabbè, amica mia, però lo sai che l'ho incontrata. Ci sono delle persone sbagliate, a volte una persona non sbagliata può aiutare a far uscire uscire da delle situazioni e a far cambiare le persone, però mi rendo conto che non è possibile. Beh, dai, uno col coltello, le cose, dai. Ma scusa, se uno supera, qui ti tira fuori il coltello, l'ho capito, in autostrada. Vabbè, ma sei, Parenzo, noi non possiamo capire queste cose. Sì, perché... anche il mio ex ragazzo, pure, in un locale dove io avevo fatto un'ospitata, lui mi aveva accompagnato, ha visto che c'era il mio ex e lo voleva uccidere. È un mondo incredibile. Lo voleva uccidere? Ma come lo voleva uccidere? Perché lo voleva uccidere? Beh, col coltello non credo che ci si facciano carezze, magari ferite. No, infatti, ma mi sembra incredibile. Non lo so, scusate, ma... Non si poteva magari discutere un attimo con calma? Scusa, è che noi non siamo abituati al fatto che una mia ex dice, scusa, voglio uccidere il mio ex. Sì. Cioè, lo volevo uccidere. Lui era geloso di... Allora, cioè, lui non voleva che io facessi questo lavoro, non mi ha fatto fare... Una volta che dovevo andare in Rai a fare un'ospitata, il giorno prima sono arrivati i carabinieri a Milano dai vicini, lo volevano portare in questura perché anche lì mi aveva alzato le mani, perché non voleva che io andassi in Rai a fare un'ospitata televisiva, non voleva però, che io facessi scusami, fotografie. Fammi capire un secondo, questo signore qui ti mena ogni tanto, gli trovi pure i messaggini con le prostitute, quindi il signorino è il primo che, diciamo, adesso non vorrei che si incazzasse con noi, però facciamo un po' il punto della situazione di questo signore qui, no? Se lo superi, tira fuori pure il coltello a serramanico, voglio dire, una roba incredibile, scusami, ma che devi fare? Vabbè, adesso noi stiamo ridendo, però no, sono cose ma grandi. Non sto ridendo, è drammatico, cioè rido, però ho riassunto le tre grandi questioni, lo superi, tira fuori il coltello, e non vuole che vai a fare i provini, te corca de botte, in più gli non trovi pure i messaggi. Non ho fatto a sopportare questa situazione, infatti tutti i miei amici, la mia famiglia, nessuno voleva che continuasse questa relazione. Meno non male. Non so neanche io, guardate davvero, non lo so perché... Infatti mia madre non voleva che io andassi lì a parlare perché se ne sentono tutti i giorni al telegiornale. Ma soprattutto tu sai benissimo che ci sono dei precedenti pazzeschi, cioè puoi finire veramente male se uno non molla la situazione, e anche se uno molla purtroppo la gente ti può perseguitare sotto casa. Vabbè, cara Francesca, ti abbraccio, a presto, ciao. Grazie mille, ciao, a voi, ciao, grazie. Ciao, cara. Francesca Cipriani, showgirl. Poverina. È una cosa seria questa, eh? Avete visto che è successo a quella in Campania, no? Però pare adesso sia decisa a lasciare il soggetto. Roberto da Milano, quella ex miss non so che cosa, no? Ti ricordi? Roberto da Milano, dai. Pronto, pronto. Eccoci. Mi senti? Sì, sì, ti no, sento. Adesso mi colpiva il fatto che tu fossi così dispiaciuto per questa ragazza che è tormentata da questo tizio che la picchia. Beh, insomma, mentre invece se uno mette un piede sulla pancia di una ragazza sdraiata per terra, quello invece ecco la cazzata, ecco la cazzata delle 20:46, ecco la cazzata. Okay, devi fare un'altra di cazzata. Ecco la cazzata delle 20:46, se non c'entrano. Con me dentro uno stadio. Ci mettiamo io, te e Riccardo dentro uno stadio. Sì, ma che così c'entra? Ci divertiamo. Ma io non voglio stare con te, non voglio stare con te dentro uno stadio. Lo so che Roberto. Non ci vuoi stare, neanche i manifestanti del Cile ci volevano stare. Ma che c'entra il Cile? Non allora c'entra niente il Cile. Coglione cita lo stadio dove vorrebbe rinchiudere. Perché se vogliono affrontare lui dice così Riccardo, ovviamente esagera, ma dice che se vogliono affrontare la polizia la affrontassero dentro uno stadio, no? Invece di magari di difendersi dietro le macchine, di mettersi nei vicoli, di tirare e scappare, perché poi la polizia deve avere a che fare con l'ordine pubblico, però... affrontassero la polizia dentro uno stadio e vediamo come ne escono fuori. Vabbè, è una provocazione ovviamente, no? Ma non mi pare così strana come provocazione. Capito, bastante. Roberto? Le provocazioni non si possono fare come non si può fare quella di Grillo imbecille che va a mettere quella frase lì, il lavoro, la P2 rende liberi. Queste coglionate, questo linguaggio di merda porta dietro la violenza che si è determinata in questo secolo che è appena passato. Sei un coglione quando tu non censuri quella roba lì. Se tu prendi questo Riccardo, senti, amico mio, Roberto, io a fare certo, ogni 3x2 a certo. Fare tutta quella violenza verbale, ha ragione quel povero Cristo, quella persona civile di Parenzo che ti sta a fianco, sì. Che ogni tanto vomita, gli viene da vomitare. Ma certo, ma Parenzo può vomitare. L'eccesso di merda che spari tu continuamente, che ti fa fare lui, va benissimo, ma c'è un eccesso di merda che non si può superare e riguarda la Shoah, riguarda le dittature. In questo caso la Shoah non c'entra nulla. Di morti ci sono stati, tu sei stato invece che col culo caldo, che in realtà... Vai, sfogati. 2000... No, non mi sfogo, non mi devo sfogare. Ma ti stai sfogando? Chi ha messo in... Scusa, chi è che piglia per il culo la Shoah? Chi è che prende in giro la Shoah? Chi la prende in giro? Chi la sta prendendo in giro la Shoah? Di che parli? Non Beppe ho mai preso Grillo. In giro la Shoah, ma non è vero. Tu, Beppe Grillo, ti ho fatto un esempio. Sì, ma Beppe per Grillo non ha fatto... Che c'è una cosa, un confine che non si può superare. Vabbè, ma ho capito, ma se ne discute, no? Se ne discute, se ne discute. La violenza che è stata fatta sui manifestanti, inermi. Ma quale manifestanti inermi? Ma smettila! smettila, manifestanti inermi, smettila, che non erano inermi per niente. Comunque, se uno si trova vicino a uno che spara un razzo all'altezza d'uomo, ogni tanto capita che si prende una manganellata, hai capito o no, Roberto? Se tu ti trovi accanto a uno che spara un razzo ad altezza d'uomo, capita che in una carica ti prendi una manganellata in faccia, chiaro? Chiaro? Ma tu ci vai? Tu ci vai accanto a uno che spara un razzo all'altezza d'uomo? Ci vai? No, io non voglio mettere, ecco, non ci vai, perché sei una persona per bene, non ci vai accanto, non dico a sparare, accanto a uno che spara i razzi all'altezza d'uomo, non ci vai, perché sei una persona normale, non vai accanto a uno che spara un razzo, spara una bomba Molotov o una bomba a mano, non ci vai, perché sei normale. Uno che sta accanto a una persona che spara un razzo non è normale, ma è chiaro o no? Fratello, ascolta, non è così, perché non è così, invece è normale. 2001, dove un mare di gente inerme è stata caricata dalla polizia, fammi finire, i poliziotti erano disgustati e si toglievano loro le divise di fianco ai loro colleghi, io li ho visti. Voi state parlando di altre cose, ma io non sto dicendo che la polizia può fare qualsiasi cosa, ma Roberto, vabbè, vai, vai, forza. La fine della frase è che la polizia in certi momenti è piena di merda, e tu questa cosa non la puoi nascondere, ci sono dentro la polizia delle persone molto violente che hanno ucciso Cucchi, che hanno ucciso Aldrovandi. Ecco, cominciamo con Cucchi, con Aldrovandi, cominciamo con altre cose. Su alcuni casi, ma chi li difende? Ma chi li sta difendendo? Allora, chi li sta difendendo? Accusali di che quella polizia di merda, come dice Parenzo, molto equilibrata. Ma quale polizia di merda? Quale polizia di merda? Quella che fa violenza sui detenuti, quella che fa violenza. Ma chi è che sta difendendo questi qua? Quella ragazza col piede addosso è una roba vergognosa. Ma quale roba? Tua figlia, tu la ammazzeresti quel poliziotto? No, io ammazzerei mia figlia che è andata a quella manifestazione per primo, innanzitutto. Per primo, tua figlia va a una manifestazione in modo civile, non sta con civile mio nonno, capito? Perché stava accanto a quelli che sparavano i razzi. Tutto questo non autorizza nessuno a farle del male, non c'è dubbio. È evidente che se ti trovi lì, ti trovi lì, non è che questo allora si può essere preso a manganellate. Poi se quello là ha fatto apposta a salire e a schiacciarla, per me è stata una calpestatina. Una calpestatina. Non va bene calpestatina, Roberto? Figlio di puttana, perché ha in mano le chiavi della città. Lui difende il mio onore, difende la mia vita. Ma chi? Non può fare una roba del genere. Chi? Se la fa lui, siamo fottuti. Se un poliziotto calpesta una ragazza, è la morte, la fine, perché non è un delinquente, è un poliziotto. Ha il mio stipendio che gli pago io. A proposito di pagare, io pago le tasse, lui non può farlo, cazzo, perché la legge dice che non può farlo, e tu non la puoi chiamare calpestatina. E qualche volta vai in manifestazione perché tu hai... No, per carità, che sei matto. Anzi, fatti insegnare qualcosina da Parenzo. Vabbè, Roberto, comunque vedi che qui si può parlare tranquillamente. Grande, ti abbraccio. Roberto. Grande, ciao. Roberto. A domani, 18:30. Ciao. Cruciani, Parenzo, ciccia, Zanzare dal nero mantello, ciccia. Il vostro programma, sei bello, ciccia. Sollazzateci ancora di più. Non mi metta giù, guarda che c'è impegno, cioè, perché io vi voglio bene, ecco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vedi che minchiate che dite. Radio 24. La passione si sente.